Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa per, di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stiamo parlando. Non so che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Ma una volta facevi il giornalista, anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. È tutto finito, è una merda. E voi, te e quel frocio di Parenzo, sostenete la merda. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. No! Cruciani, stiamo ascoltando in podcast da Shanghai la zanzara. Termovalorizzatori, zingari, cazzi a molla. Noi siamo qui sul letto che ci facciamo massaggiare da due belle cinesine che ce l'hanno presa appena a mano e ce lo stanno menando. Un saluto a te, Parenzo Cruciani. Peraltro sono anche ebreo, signor. Vabbè, comunque questo non mi interessa. Canzone sulla liberazione, Parenzo. Sì, la nostra canzone sul 25 aprile. Non ho capito bene le parole perché io ho in mente un'altra melodia del 25 aprile. Però forse c'è un problema di disturbo su Roma, perché c'è una distorsione dell'audio e delle parole, perché non conoscevo questa versione partigiana, diciamo, non la conoscevo. Ragazzi, qui si sta parlando ormai di stalking vero e proprio. Sì. E gli uomini di Facebook, in particolare il signor Zuckerberg, hanno tutta la mia solidarietà. Si tratta ormai chiaramente, evidentemente, di stalkeraggio. La signora Boldrini stiamo parlando. Adesso rompe i coglioni di nuovo a Facebook. Rompe i coglioni perché vuole togliere tutte le pagine inneggianti al fascismo. Sì, oh, questo è giusto. No, ragazzi, questo è giusto. Ma perché sei così liberale? Ti spiego perché. Perché sei così illiberale? Te lo spiego perché poi chiudiamo. Perché oggi sono depresso, sono stanco, depresso. 18:36, non si lavora del giorno di festa. Ma non è vero. Sono qua solo in un edificio vuoto, amico mio. Bellissimo questo. Ma spiegami tu com'è possibile. Capanna, che è successo? Un momento, arrivo alla sede del Sole 24 Ore dicendo è la festa della liberazione, occupiamo il giornale. Non trovo un cazzo di nessuno che fa resistenza. Non trovo neanche un dipendente, un piccolo collaboratore, nessuno. Il deserto dei tartari. Allora mi domando, ma come mai la Confindustria non fa lavorare i propri dipendenti anche il giorno del 25 aprile? E allora mi sono detto, amici e compagni, quale giorno migliore per occupare il giornale cosiddetto economico degli ex poteri forti? Sono arrivato qui con quattro compagni. I miei compagni sono salito al secondo piano della cosiddetta Radio 24 e mi sono appollaiato qui. Domani, quando arriveranno tutti, mi troveranno qui. Ma e rimango dei giorni. Non succede qui. Nulla. Rimango in questa postazione. Arriva il vigilante e ti cacciano via. Il vigilante non arriva perché un compagno mi ha detto: vai, Mario, col vitalizio e fagli capire a questi qui che cazzo di testata è Sole 24 Ore. Peraltro, anche il vigilante concordava con me sulla inutilità del nome, assolutamente inutile, no? E allora, con la solidarietà delle compagne e dei compagni. Rimarrò qui nottetempo fino a domani mattina, quando mi impossesserò nuovamente del microfono al posto di quell'imbecille del cosiddetto signor Milan. Anche qui uno che si chiama Milan e sta a Milano, d'accordo, ma è di una banalità allucinante. Vabbè, ho capito, domani mattina ci troveremo qui nella plancia di comando e cominceremo finalmente a raccontare la verità su questo giornale, fare i nomi, i cognomi, racconteremo tutto. Già, amico mio, ci ha pensato lotta, qualcun altro. Comunque. Lotta continua qui, lotta continua dalla sede economica, dalla plancia di comando, amico mio, non mi muovo più. Negli anni 60, pensa, voglio dirti solo questo e poi me ne vado. Negli anni 60, quando occupavamo queste cosiddette istituzioni, i padroni scappavano come conigli. Pensa che quel cane di Romiti, quando siamo trovati faccia a faccia, aveva paura. Sì, è certo. Sbiancato Romiti, perché lo abbiamo circondato, certamente, naturalmente, ce lo abbiamo circondato col nostro servizio d'ordine. La Fiat all'epoca ribolliva, noi sparavamo alle persone, amico mio, ma erano anni formidabili. Ho scritto anche un libro, formidabili quegli anni, scappavano come conigli, avevano paura, non ci sono più quegli anni. Ora mi fanno passare tranquillamente, non mi ferma nessuno, se ne fottono, dicono è arrivato Capanna, va bene, salga dottore, chi se ne frega, ma come chi se ne frega, sono Mario Capanna io. Sono cambiati i tempi. Comunque ragazzi, dicevo della Boldrini che fa stalkeraggio nei confronti di Zuckerberg. Sì. Dice che bisogna chiudere le pagine. Sì, ma che questo non è sbagliato. Ma vai a fare in culo. Cioè, se tu senti, davvero, scusa. Adesso mi devi fare incazzare subito. All'inizio della trasmissione, sì, ci sono due ore, scusami, e mezza. Caro amico mio, la Boldrini, le pagine sul nazifascismo, chi se ne frega? No, vanno chiuse. Scusami, quando c'è una scritta su un muro, no? Scrivono cose fasciste. Subito la ama o chi per esso va lì e la cancella, perché è offensiva oltre che lorda al muro. Dai, su. Devono valere per Facebook le stesse regole che valgono per tutti gli altri media. Uguali. Tu inneggia il fascismo, ti chiudiamo. Boldrini, perché fammi non sentire è la Boldrini che non ne posso più. Ma quando è che diventerà? Quando è che finisce questa legislatura? Ti prego. Quando finisce questa legislatura? Però lei si ricandida. Quando finisce? Non è detto che no, sia finita. Purtroppo si ricandiderà. No, sì, perché sennò che cazzo fa se non si ricandida? Diciamo la verità. Ma che cazzo fa se non si ricandida? Ma diciamoci la verità: cosa fa se non si ricandida la Boldrini? Va all'ONU, a quelli dei che si occupano di profughi, ritorna a occuparsi di profughi. L'ha già fatto. Può darsi, speriamo. E anche bene la fa. Comunque, ragazzi, chi se ne frega, vai. Io ho raccolto una denuncia dell'ANPI. L'ANPI ha fatto una ricerca, ci sono 2700 pagine di Facebook che sono di ispirazione nazifascista e 300 chiaramente apologetiche. E dunque ho detto che questa è la situazione del nostro paese e ho chiesto un'attenzione su questo, di chiudere queste pagine della vergogna. Ecco, mi auguro che lo faccia. Mamma mia, che banalità. Mi pare un'ottima iniziativa. Sarà banale, ma è la giusto libertà che qualcuno vale lo faccia. Per tutti, pure per quelli che si proclamano fascisti o nazisti, amici miei. È contro la Costituzione, no? Ma chi se ne frega? Ma come la Costituzione? Chi se ne frega? Ma come no, chi ma se ne no. frega? Posso dire che me ne fotto della Costituzione? Sì, puoi dirlo, posso... ma no, ma me ne frego, ma che vuol dire la Costituzione? Un americano mai direbbe me ne no, fotto. No, ma non me ne frego da questo punto di vista, me ne frego della Costituzione americana. Ma me ne frego, la libertà deve valere anche per chi si proclama antisemita, antifascista. Ma non nel nostro sistema, perché il nostro sì, ma scusami. Amici, mi fai sentire un attimo Salvini oggi da Verona? Sì, da Verona, chiudi, Salvini, chiudi, che cosa dai, ha detto? Chiudi, sì. Che il terrorismo islamico è il nazismo del 2000, questo ha detto. Signor terrorismo Salvini, islamico? È il nazismo del 2000. Paragoni, non so. E a me piacerebbe che chi oggi sfila nelle piazze ricordando il 25 aprile avesse ben chiaro in testa che il terrorismo islamico è il nazismo degli anni 2000 e va combattuto con ogni forza e con ogni mezzo necessario. Il fanatismo islamico è il nazismo. Sono cose un po' diverse, diciamo. Meno la verità, male. Sono cose molto meno molto diverse. È un'altra tu, roba, dai, è un'altra roba, dai, è un'altra roba. Bravo. Allora, no, ti voglio leggere tre cose di questo Macron, che sì, viene esaltato da tutti come l'uomo nuovo che può fermare il fascismo in Francia, una cosa patetica, ridicola. Ti voglio leggere tre frasi che ha detto recentemente, caro Parenzo, tre frasette che ha detto di recente. In questa società, quando era ministro, rivolgendosi ad alcune donne, insomma, è andato a trovare una fabbrica, a visitare una fabbrica in Bretagna. In questa società c'è una maggioranza di donne per lo più ignoranti. C'è bisogno di giovani francesi che abbiano voglia di diventare miliardari. La vita di un imprenditore è spesso più dura di quella di un dipendente. No, non dobbiamo mai dimenticarlo. No, è come dire, è come la dire vita di un imprenditore, certo. L'uomo tuo di sinistra che tu vorresti lì per fermare ma la Le Pen. Non è proprio di sinistra. La vita di un imprenditore è spesso più dura di quella di un dipendente. Beh, l'imprenditore rischia. Su questo ha ragione, perché ha ragione. Di un dipendente, ragazzi, non c'è dubbio. Dai. L'imprenditore rischia di più di un dipendente. Cioè, il dipendente ha il limite di avere un salario fisso basso. L'imprenditore, se fa bene il proprio mestiere, rischia molto di più di un dipendente che a fine mese ha il suo salario garantito. Allora, basso ma garantito. Allora, un momento, delle luci si illuminano qui all'orizzonte. Che succede? Un momento, fatemi capire che delle luci si illuminano all'orizzonte. Che è successo? Fumogeni che arrivano là per sgomberare. C'è una cazzo di guardia giurata che evidentemente non mi ha visto all'ingresso. Aspetta che vado a verificare. Bellissimo, falla entrare sta lì. Sta facendo scattare Parenzo l'allarme. Parenzo illegale dentro il Sole 24 ore. Fai entrare subito la guardia giurata. Un momento. Fai entrare subito la guardia giurata. Yeah. Subito dentro. Palazzo occupato, guardia giurata dentro la radio. No. Fai entrare la guardia giurata. È scattato semplicemente la luce, prima era tutto buio, è scattata la luce, probabilmente si è accesa la luce. Roba incredibile, ormai risparmiamo anche sulla luce. Condivido molto. Adesso ti faccio sentire una cosa di quel tizio là del Grande che è stato liberato, no? Sì, quel giornalista, quello che è stato ospite delle prigioni turche. Sì, sì, diciamo che non sono state proprio prigioni durissime, diciamo. No, è questo per dire, non sono state durissime. Fai tu ma a sì, fare ma la zanzara da no da ma Erdogan. Ti faccio sentire questa cosa. Da Istanbul la zanzara. Prova magari. Vediamo dopo quanti minuti. Però ti faccio ti prendono e ti mettono in una cella minuto, con quattro minuto, persone un nude un quattro. Sì, però lui non è stato in cella con le persone nude che si acchiappettavano. No, meno male, certo. Però a un certo punto all'arrivo all'aeroporto ti faccio sentire questa frase. Arrivo all'aeroporto, poi uno dice che ha dei pregiudizi, poi uno dice che ne parla, che non sta lì a farne un eroe, eccetera, eccetera. Però adesso ti faccio sentire questa frase all'arrivo all'aeroporto di questo signore che si chiama Del Grande. Del Grande, lo sapete tutti, no? Sì, Del Grande, quello liberato con Alfano. Povero lui, è stato costretto a essere ricevuto da Alfano. Su questo devo dire la verità, lo compatisco. Ha fatto una grande operazione. Allora, senti un attimo, senti. Gabriele, che cosa ha visto ai confini con la Siria? Questo lo leggerete nel libro. Vabbè, certo. Tu arrivi lì, dopo essere stato prigioniero, tra virgolette, in Turchia, la prima cosa ti fanno una semplice domanda. Uno che è stato là, magari a farsi un culo così, con i microfoni là davanti, perché non è che sono tutti quanti circondati da Alfano, eccetera, eccetera. Là ti fa una semplice domanda. Cosa hai visto ai confini con la Siria? Lo leggerete nel libro. Vai a fare in culo, tu e il libro. Ma che è un'operazione commerciale? Cos'è un'operazione di vendita in anticipo del libro? No, ma chi c'entra? Ma che roba è? Ma dai, ma non lo trovi una cosa indegna questa roba qua? Uno arriva là con i microfoni, ma di sì, ho visto una situazione di crisi, di una cosa diciamo di circostanza. Che, dai, diciamo che lo leggerete nel libro. Ma soltanto che dicesse, lo leggete nel libro, poi soltanto perché dovrebbe scrivere 9 un libro? Euro ma il libro, ma esatto, euro soltanto 9 euro Mondadori o Spelli e Cuffaro, quello che è. La nave di Teseo, ma scusa, ma, male, vi rendete conto o no della follia di questo sì, signore dico, qua? Ha sbagliato a non dire anche il prezzo di copertina, secondo me. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. La Zanzara. Ma io volevo chiedere questo fascistello di Salvini, ma per diventare un primo ministro italiano, no? Deve essere prima italiano. Non dichiara più che sono un padano. Devi dichiarare prima che sei italiano, sennò come fai a diventare primo ministro italiano? Amico mio, ragionati. Ciao Parenzo, non saluto quello stronzo l'altro perché non voglio essere salutato, quindi mandiamolo a fare in culo. Questo che è un muslim amico tuo, sarà un immigrato amico tuo. C'è, la maggioranza la silenziosa. La maggioranza silenziosa ogni tanto si fa sentire. Molto bene, molto bene. Avanti tutta, 800 24 00 24. Chiamate adesso, fratelli. La vera invasione, fatela vedere questa invasione, questa sostituzione etnica. Facciamola la sostituzione etnica alla Zanzara. Cominciamo a far vedere che siamo maggioranza cinese. Ma maggioranza arabi, chi? La invasione. Salvini parla di invasione. Bene, cominciamo a fare qui la sostituzione etnica alla Zanzara. Cambiamo il pubblico da pubblico miserabile che chiama, chiamino soltanto quelli della normale di Pisa, i laureati della Bocconi, i migranti, i rifugiati, un po' di Rom. Questo mondo, chiami 800 24 00 24. Mandiamolo a fare in culo. Ma chi è questo qua? Ma chi è questo? Fratello, è? Comunque ragazzi, Librandi ha colpito ancora. Il mitologico deputato della fu sciolta civica, Librandi, imprenditore di Saronno, ormai praticamente ospite fisso a Dalla Vostra Parte, altre trasmissioni, a fare la parte sostanzialmente dell'utile idiota, diciamola tutta. Io l'ho detto pure in faccia l'altra volta. È lì perché gli conviene stare lì, fa ascolti, l'ho detto pure, facciamo un sacco di ascolti, fa parte di una specie di teatro. Cioè di una specie di pièce teatrale. Signor Librandi dice che il turismo è aumentato perché è aumentata la sicurezza. Ti giuro, ha detto così. In Italia è aumentato il turismo perché è aumentata la sicurezza. Librandi. Le forze dell'ordine hanno fatto in modo che questo paese è il paese più sicuro. Infatti il turismo è aumentato del 10%, del 15%. Messina, perché ma quindi è tutto... Il turismo è aumentato perché è aumentata la sicurezza. Naturalmente il classico qual è, Parenzo? La piazza contro Librandi. Si è accesa. Una piazza lì, qualsiasi, in un qualsiasi paese della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, dove c'è casino, dove ci sono magari pensionati, dove c'è gente che prova a sbarcare il lunario, tutti incazzati con i politici di turno, messi lì e istruiti per sparare a zero. Per quanto riguarda Roma, io ho letto le statistiche della provincia di Roma, le rapine sono diminuite del 20%, i furti del 20%, è chiaro che... A casa tua, perché sei protetto dai carabinieri, dai guardie, vieni qua, io no, papà, che io non tu. Sono protetto. Ma che ti sei fatto a dormire a salame? Questa è una versione nuova, però. Vatti a dormire a salame, a casa tua, perché sei protetto, sei protetto dai carabinieri. Ma non è vero. Ma sì, ma ecco, anche, sarà pure vero. È ricco, dunque si può permettere di essere difeso. Ma cosa vuol dire? Ma come dai carabinieri? Ma anche tu dai ancora, una falsa stavolta informazione. Contro Zancan. No, i carabinieri non è che proteggono Librandi, i carabinieri. Appunto, esatto. Però si può permettere, no, le metterà qualche le allarme, telecamere, ma in finanziaria guardie è previsto. Private, guardie private, in finanziario. Ma che mi fai? Ma chi sei? Barisoni? No, sono bravo, in finanziaria sì, è previsto. In finanziaria chi sei? Risulta. Ma chi sei? Il sottosegretario all'economia? Chi sei? Benvenuti a Focus Economia. Allora, come sapete, in finanziaria ha previsto sgravi fiscali per chi mette telecamere. Quindi il MIPTEL. Senti, contro Zancan, senti, sì. Ti prego, contro Zancan. Sono stato rapinato, ho chiamato un anno fa. Ho chiamato la Digos, sono venuti, hanno fatto tutte le analisi. Ma sono balle, balle, tu no, no, ma ti hanno puntato una pistola. Balle. Tu sei un ballista, ascolta. Librandi, si è trovato faccia a faccia con i rapinatori? No, non mi sono trovato a faccia a faccia. Librandi, ascolta, furto, rispondi. Quindi. Sei stato minacciato da un'arma? No, non sono stato minacciato. Perché tu sei stato minacciato da un'arma? Tu racconti delle balle gigantesche, è stato minacciato da un'arma qualche no, tuo dipendente. No, tu Librandi, sei stato minacciato da un'arma? No, sei io stato no. Malmenato? No. Allora cosa vuoi parlare, coglione? Cosa vuoi parlare? No, piano, no, scusi. No, no, è un grande coglione. Gli insulti no, gli insulti no. Zancan, per favore, no. Abbia pazienza. No, ma il bello è Bel Pietro, gli insulti no. Ma è tutta la è come se io dicessi gli insulti no. Cioè, capito? Io adesso inizio la trasmissione 18:30 e dico: no, ragazzi, dai, stasera gli insulti no. Bel Pietro ha costruito una trasmissione sulla piazza che prende in politica ammazziate dicendogli pezzi di merda. Ma ti hanno stuprato? Ti hanno stuprato? Ma no, veramente non mi sono rapinato. Appunto, sono rapinato, non ti hanno stuprato. Ti hanno puntato la pistola a tempi a pezzo di merda di sinistra. Beh, no, no. Calma, adesso un momento, gli insulti no. Magari saranno linciato su. Praticamente. Vabbè, a proposito di Macron, Augias, sì. Senti, Augias, chiudiamola oggi, no, Augias, che tu voglio citare addirittura Augias sulla moglie di Macron, Augias, ottimo, Corrado, sulla moglie di Macron. Piace molto Corrado Augias. C'è speranza per tutte, per questo Macron prende i voti delle donne, secondo Augias. Beh, anche questa è un'analisi intelligente. Ma sì, ho capito, ragazzi. Cioè, no? Secondo te le tardone votano Macron perché si immedesimano nella moglie che si è fidanzata sì, col ragazzino? No, intanto dai. Riconoscono una grande storia di amore di un ragazzo che ha avuto di un ragazzo che è andato andato via dalla piccola città dove studiava, innamorato della sua prof. L'unico motivo per cui mi piace. Parigi ha detto: io tornerò da te. Beh, una grande storia d'amore. Io ti sposerò. Ma questo è l'unico motivo per cui mi piace Macron. È stata per anni sposata con un avvocato. Perché da ragazzino si inchiappettava la vecchia. Questo è eccezionale. Adesso io non parlo di questi termini. Io la riduco. Tu parli di grande storia d'amore. Io parlo di un ragazzino che si trombava la vecchia. Di speranza per tante donne, per tante ragazze che sono state magari abbandonate. Ma che messaggio di speranza? È un grande messaggio di dire: guarda l'amore cos'è. Tornerò da te. Ora non posso. Non posso, Mus. Ora non posso. Quello che c'è. Beh, non nulla. È venuta così, una cazzata. Ora non posso, ma tornerò da te, amore. Tornerò da te. È tornato. Banca Rothschild. Presidente della Francia. Presidente della Francia. Aspetta. Aspetta. Non succede, ma se succede. Secondo lei che ruolo avrà come First Lady? Beh, quello che io so vincere? È che questa strana relazione amorosa pare molto intensa e sincera e lunga, e gli ha garantito a Macron l'appoggio di molte donne francesi. E lui è amato anche per questo, come si potrebbe dire, c'è speranza per tutte. Ecco. Ma le grandi analisi di Augias. Beh, una cosa vera, però. Ma dai, adesso le donne si immedesimano nella 65enne, quello rispetto a Hollande, che veniva chiamato in faccia, non ricordo mai, il budino. Rispetto al budino Hollande, che ha fatto un casino con la Rottweiler lì, lasciando la ex, che gli ha scritto un libro contro pazzesco, scappava di notte con una motocicletta per andare a fare le fuitine con la tricetta più giovane di lui di 30 anni. Tu dici. Contano pure queste cose. Beh, può essere. Fammi sentire Matteo da Vicenza. Matteo da Vicenza. Posso dire che non me ne frega niente di Matteo da Vicenza? posso dire, ma guarda, veramente, senza odio, non me ne frega nulla. Anzi, io, tanto tra poco chiudiamo, perché poi c'è il telegiornale, c'è quello, quella. Ti lascio e vado a fare la Bibbia. No, aspetta, Matteo, fammi sentire. Non mi interessa. Posso dire che non mi interessa? Ma non è vero. Matteo, dimmi, dai. Buonasera. Dimmi. Signor Cruciani, lei è liberale quando lei fa comodo. Ma allora, questo mi piace. Ma che... Bravo, Matteo. Perché? Scusa, Matteo. A che proposito? Perché se la Boldrini spara una puttanata del tipo che bisogna chiudere le pagine Facebook sul fascismo, sì. Il fascismo è una puttanata, no? Sì, ma ecco, senza colossale. Senza distinguere se uno a pagina parla, che ne so, che durante il nazismo la disoccupazione è scesa e non so ancora perché. Ma perché così. Non lo so, me lo spieghi lei, perché ma che non c'è nessuna considerazione la disoccupazione durante il nazismo, ma che dici, sei pazzo? No, totale. No allora, intanto studia, no? Studia, è cosa? È vero o non è vero che abbiamo il nazista dei 1856, che sei nazista, no. Matteo, che fai l'elogio di Hitler, dicendo che qualche cosa buona l'ha fatta, lasciami finire. Adesso dici che la Boldrini devo chiudere un attimo, ma aspetta, adesso ti richiamo dopo, aspetta. Ma faccio tutto, solo culo, niente, capito? Sì, questo l'ho capito, c'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico, culo, niente. Per una notte romantica, culo, niente. Impreparato mi coglie, ehi, cosa fa? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto, solo culo, niente. Vai col massaggio romantico, vai con la notte romantica, ma quanto è brava la Cina. Culo, niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo, niente, questo ho capito. Nell'arte della manina. Solo culo, niente. La Zanzara. David? Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. No, io ti ho parlato dolce e semplice. Chi sei morto? Chi sei morto? Stai zitto che non sei nessuno! caro Brezzo, mentre il mondo è in subbuglio, si attende l'esito delle elezioni in Francia, le tensioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord sono sempre più forti. Un deputato dei 5 Stelle, tale Bernini, fa un'interrogazione, credo un'interrogazione parlamentare, per protestare contro una tradizione in provincia di Salerno, esattamente a Pagani. Come si chiama questo qui? Bernini. Io conosco solo Gian Lorenzo Bernini, ma altri Bernini francamente non li conosco. Bernini dei 5 Stelle, interrogazioni sulla festa, la sagra della Madonna delle Galline. La Madonna delle Galline si svolge a Pagani. Dove pare che trattino male le galline. E sono qui a sollecitare la risposta all'interrogazione numero 4 12958, considerato che questo fine settimana si svolgerà nuovamente la manifestazione religiosa denominata Madonna delle Galline in provincia di Salerno. L'anno scorso mi sono pervenute segnalazioni sulla pratica di offrire alla statua della Madonna volatili ancora vivi, che le vengono gettati addosso, e il miracolo consiste nel fatto che, nonostante musica e giochi pirotecnici, non volerebbero via. L'interrogazione parlamentare sulla Madonna delle Galline di Pagani, caro Parenzo, è la fine di tutto. Tema centrale, mi pare. Senza vita sull'asfalto, non sono pupazzi, ma esseri senzienti. Le immagini riportate dai media un anno fa ritraevano una gallina bianca a cui erano state legate le zampe, con un nastro rosso al collo, e giaceva senza vita sull'asfalto, nel trambusto dei festeggiamenti. Mi è stato inoltre segnalato che il carro con la statua sarebbe stato addobbato con pavoni, galline e colombe. Numerosi altri volatili sono stati utilizzati per addobbare luoghi cittadini, come se fossero pupazzi e non esseri viventi senzienti in grado di provare paura, dolore e disagio. Questo è praticamente il manifesto animalista del mondo contemporaneo, degli ultimi anni, amico mio. Cioè, preoccuparsi per la sorte delle galline utilizzate, sembra, ma sicuramente ne morirà qualcuna. Ma come muoiono poi, perché vengono magari sgozzate? Possono morire anche durante una sagra. Non cambia assolutamente nulla. Nulla. Certo, se ci sono violazioni di legge per maltrattamento degli animali, si interessi della ma cosa, ma perché se ne deve occupare il Parlamento della Repubblica Italiana? Ecco. Vabbè ragazzi, oggi sul palco della Lega Nord, caro Parenzo, c'è stata la presenza. Cosa ha fatto la Lega Nord oggi? Una manifestazione a Verona per la sicurezza, per la legittima per la sicurezza. Difesa. Del giovedì 25 aprile fanno una manifestazione ottimo, per la sicurezza. Ottimo, la liberazione dall'insicurezza. Sì. Secondo me ottimo. Capisci la follia? È più interessante in Francia, questo. Il 14 luglio è una festa nazionale. Dovrebbe essere. Il 14 luglio in Francia è una festa nazionale. Come tu sai, il 14 luglio ricorda 14 luglio 1989. Te la posso dire chiaramente cosa ne penso. Questa festa del 25 aprile è stata sempre appannaggio dei comunisti. E la cosa, ma che c'entra? E la cosa mi è sbagliato. E la cosa mi è sempre stata ma sui coglioni da morire. In realtà è la festa della liberazione, mi è dovrebbe stata riguardare sempre tutti. Sui coglioni da morire questa cosa. Sbagli, perché in realtà c'erano partigiani bianchi, c'erano gli americani, dovresti festeggiare, invece gli americani che coi partigiani al nord, i ancora partigiani con la favoletta al sud, ancora con la favoletta che ci hanno liberato i partigiani comunisti, i partigiani non ancora solo comunisti, con questa favoletta i partigiani bianchi, Tina Anselmi, avessi dovuto parlare ancora, di Tina Anselmi, ancora Tina Anselmi, ancora i partigiani, credi alla i partigiani comunisti, ancora no, credi alla al storiella nord, dei partigiani eroi della patria, ma qua leggi di qualunque libro al dai. Nord la resistenza ha avuto un ruolo determinante, dai, al sud sono stati gli americani, al sud gli americani, al nord dai, i partigiani, come ma questa è la storia. E chi l'ha liberata l'Italia allora? Gli americani. Solo gli americani. Senza nord, gli americani eravamo ancora sotto Baffino. Ma ci mancherebbe altro. Allora bisognerebbe festeggiarla infatti questa festa, no? Ma io non festeggio mai nulla, figuriamoci se festeggio. Sbagli. Con la bandiera americana bisognerebbe mettersi benissimo. Col drappo americano. Col drappo americano. Allora, col buongiorno, pensiamo a parlare delle brigate partigiane. Ognuno però ha anche il diritto. Ognuno ha anche il diritto di non festeggiare un cazzo, oppure c'è per forza c'è l'obbligo ci di festeggiare. Però è un peccato, perché in realtà è sarà una festa, un peccato. È una festa che riguarda tutti noi, riguarda buongiorno. Il diritto a te di dire queste minchiate e di far parlare i nazisti, cioè è questa la libertà. L'avvocato buongiorno. Sì, ma ce l'hanno dato gli americani. L'avvocato buongiorno. Dice giustamente che chi è dentro casa deve avere il diritto a reagire. Era sul palco della Lega. Dice anche che è una madre con la pistola. Sono una madre con la pistola. Io spero di non dovermi mai difendere, ma se mi dovessi difendere non mi difenderei perché sono una pistolera, ma perché sono una madre con la pistola, non una pistolera. Allora, per il professor Galimberti, invece, il professor Galimberti, mito assoluto, grande ascoltatore della Zanzara, professor Galimberti, grandissimo ascoltatore della Zanzara, Umberto Galimberti. Chi ha la pistola è un potenziale criminale, senti. La paura non si difende con la pistola. Tutti quelli che hanno una pistola in casa per me sono dei potenziali criminali, perché la pistola non serve per fare i tortellini, serve per ammazzare, diciamocelo chiaro. Uno che compra una pistola si mette a disposizione di uccidere qualcun altro. E allora se si comincia a ragionare sulla base che io offeso posso uccidere, aboliamo 3.000 anni di civiltà. Allora, con tutto rispetto per il mitologico professor Galimberti, però amico mio, qui non è che stiamo parlando di uno che viene offeso e l'altro che spara, sono due cose diverse. Se ti offendono e spari, vai in galera. Se uno dice pezzo di merda, stronzo, boom, e spari con la pistola, vai in galera, e non c'è nessun dubbio su questo. Qui stiamo parlando di un'altra cosa però, un'altra roba. Chi entra dentro casa tua, chi ti rompe i coglioni entrando e magari volendoti stuprare, rapinare, prenderti la roba, frutto di lavoro. C'è anche la signora Maria Teresa Melli che dice, come al solito, che sparare a uno che ti entra in casa è barbarie. Vabbè, dai. Però che con grande naturalezza parlano di come se uno entra in casa tua tu prendi gli spari e l'ammazzi. Insomma, è una cosa inquietante, cioè non è una, è un sintomo di barbarie. Non c'è nessun sintomo di barbarie, è una roba normalissima. Sì, normalissima. No, ha ragione la mente. Normalissima, è una roba normalissima sparare a uno che ti entra dentro casa per romperti le balle, capito? Per stuprare, rubare, eccetera, eccetera. È normalissimo, non è una cosa barbarica. È normalissimo, è un principio di libertà. Matteo da Vicenza era collegato da prima, mi sembra che abbia, come dire, espresso delle preferenze, no Parenzo, delle simpatie nazistoidi, o sbaglio? Io sono partito dicendo che cosa, dimmi, cioè tu Cruciani, lei Cruciani, tu dammi del tu sei liberale quando ti fa comodo. Ma cosa c'entra, a che proposito, perché, spiegami perché se la presidentessa lì della Camera Boldrini dice che bisogna chiudere i siti che inneggiano al fascismo, io sono contrario, allora è una puttanata, sono d'accordo. Se però in Russia un tribunale, una corte, o non lo so, non mi ricordo, dice che i testimoni di Geova non sono una religione, io ho detto semplicemente anche riflettere. Io ho detto semplicemente una cosa, amico mio, ho detto vediamo cosa dicono i russi, perché dicono che sono praticamente dei criminali, una setta criminale, è un po' diversa come cosa, Beh, è molto diversa. Ti faccio un esempio. Ma io non chiuderei nessuno, nemmeno. Guarda, posso dirti una cosa? Sì. In parte hai pure ragione. Io ho detto semplicemente: andiamo a vedere se i russi. No, se i russi. Cosa c'è dietro questa cosa dei russi? Ma figuriamoci se io voglio mettere al bando i testimoni di Geova. Ma assolutamente. C'è la follia, c'è la follia di un signore che, come in tutte le dittature più o meno forti, ha paura della diversità. Dico semplicemente che sono una setta. La parola setta è un'altra cosa. Una setta, Scientology è una setta. Siamo lì. Matteo, dimmi, dai. Un esempio del cattolicesimo. Dimmi, da ex cattolico. Sì, vai. Dio creò l'uomo e donna a sua immagine e somiglianza, li creò uguali. Dal punto di vista civile, l'uomo e donna, la Costituzione sono tutti uguali, no? Bene. Allora? Nel cattolicesimo l'uomo può ricevere 7 sacramenti e la donna 6. Vabbè, dai, su, non entriamo nella teologia. Tahir Salerno. Tahir Salerno, vai. Tahir. Buonasera. Dimmi, Tahir, che sei muslim? Allora, io ieri ho sentito le parole di Papa Francesco e ho sentito anche quello che hai detto tu, no? Tu essere muslim? Allora, parliamo del fatto con quello che voglio parlare, no? Sì, perché ho capito, ma tu essere muslim o no? Io sono musulmano. Bene, è cristiano e ebreo. Sì, tutte e tre. Sì, ottimo, vabbè. Okay, sì. Ma quando mai? Beh, comunque uno che... Se non sei nulla, allora così, sei una specie... Sei un giocoliere. Cose in comune, ha rispetto, no? Di tutto, mi pare. Ecco. Bravo. Vabbè, Tahir, che vuoi? Dimmi, dai. Allora, Papa Francesco, quello che ha detto a me mi sembra tutto normale, no? Perché allora lui, siccome è un'autorità religiosa, quindi allora dice quello che... Ma autorità per te sarà? Dice tutto quello che dice per la te, sua... Ma sarà per te autorità? Me. Sì, per me, ok, no? Per me non è per nessuna autorità, per tanti altri è un'altra cosa, no? Allora chi me ne frega? Allora ci sono milioni di persone, né, che lo amano. Allora, sì, perché, assolutamente. Ci sono pure milioni di persone che amano la Juventus, la stessa cosa. Cioè, allora è tutto normale. Ci sono milioni di persone che amano il Manchester United, milioni di persone che hanno come Dio Maradona, va bene, uguale, cioè la stessa venerazione. Allora la tua religione, no? E la tua fede gli insegna di amare le persone. Non può dire di buttarli via nel mare, di bruciarli. Ma chi lo dice che devono essere bruciati? Non ci puoi dire, amici, che dobbiamo accogliere. Cari amici dicono questa cosa. Ma cari amici, io non ho cari amici. Allora, lui non tradisce la sua religione, invece tu tradisci il tuo giornalismo. Sì, il tuo carissimo amico tradisce la politica italiana, il popolo italiano. Ma che stai dicendo? Allora, parliamo, chi sarebbe il mio carissimo amico? Chi sarebbe? Allora parliamo della difesa legittima, no? Oddio mio, questo allora, mi pare lucido, no, però questo signore. Allora, parliamo della difesa lucido. Legittima, no? Vabbè, allora che cos'è? Sono due questioni che mi vengono in mente. Perché allora la gente dice che questi criminali vengono scarcerati. Il problema dove sarebbe? Il problema per me sarebbe la giustizia che non funziona bene. Allora cosa facciamo? Andiamo a migliorare la giustizia o prendiamo le armi in mano? Senti amico mio, se non ti va di prendere le armi, nessuno ti obbliga a prenderli. Se uno le vuole prendere e vuole difendersi in casa propria attraverso un'arma, con un fucile eccetera, deve essere libero di farlo senza che poi la giustizia gli rompa i coglioni. Ma che vuol dire? Giuseppe da Bologna, ciao Tahir. Giuseppe Bologna, vai. Si verifica come sono andati i fatti. Giuseppe da Bologna, vai. Luciani, lo sai che non devi tenere l'auricolare o sì, lo so, c'hai l'auricolare e viva voce, dai, forza. No, sai. No, ce l'hai detto. No, io non ho nessun auricolare, non fare lo stronzo, dai, forza, vai avanti. Non c'ho tempo per fare per questi giochetti, sono le 19:28, dobbiamo quasi dare la linea alla pubblicità. Grazie, dai, vai. Per l'ora. Senti, allora, volevo solo ricordare a me e a tutti quanti voi che la giornata di oggi sì, ma non devi ricordare nulla a noi, amico mio, non è a me però. Sì, ricordalo a te, ma fallo a casa tua però, mica qua. Va bene, allora ciao. No, dimmi che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Che la giornata di oggi non è solo sei col viva voce, con l'auricolare. No, sono in un appartamento vuoto. Vabbè, sì, mio nonno, avanti, forza. La giornata di oggi non è solo di commemorazione partigiana. Va bene, dai, su 25 aprile. Che cosa? Ma è anche di commemorazione di centinaia e centinaia di vittime civili. Bene, ok, allora donne, bambini, eccetera. Allora? Dunque, conclusione. Lo sappiamo, lo sappiamo. Allora? Lo sappiamo, non mi è sembrato, perché a me quella specie di sigla di apertura di questa sera sinceramente mi ha fatto schifo. Ti ha fatto schifo che cosa? Risentiamo subito, no. Ti ha fatto schifo, adesso te la faccio risentire. Cosa? Quella il 25 aprile sullo squirting? Stai dicendo? Esattamente. Beh, amico mio, il top del top. Chi l'ha fatta è il top del top. Perché ti ha fatto schifo? Non ho capito. Beh, ragione. Ripensando a bambini, donne. Amico mio, ma non hai il senso dell'ironia, niente. Ti manca tutto, le basi. L'ironia, hai ragione tu. Io non ti, ti mancano le basi di questa trasmissione. Mandare in onda, che cosa? Secondo me. Ma qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Non ho capito. È irrispettoso? È irrispettoso? È irrispettoso secondo te? Se mi lasci esprimere un concetto. Ma qual è? Dimmi, hai detto oggi 25 aprile dice non si manda in onda una riedizione, un remix dei Partigiani, là della canzone di Bella Ciao. Tu puoi mandare in onda ciò che vuoi, e allora? Infatti lo fai. Io però, avendo telefonato, essendo stato filtrato, avendo già spiegato tutto, nessun filtrato, non mi pare. Filtrato nel senso che una vabbè, ho capito, fammi risentire la canzone, che sei troppo lento, va, fammi sentire la canzone. Va bene, ti faccio risentire la canzone. Giuseppe, ti faccio sentire la canzone, sì. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Caro Papa, caro Bergoglio, so tutti i finocchi col culo degli altri. Bravo, bravo. Parenzo, la devi smettere. Apri le porte di casa tua insieme a quelle del Papa. Non fare il perbenista del cazzo. Le porte di casa tua sono chiuse, quelle del Papa sono chiuse. Devo aprire quelle di casa mia, del municipio mio. Vaffanculo, te e lui. Emigrato clandestino. Ma Renzo, ma portatele a casa tua, cazzo. Le case sfitte in favore degli immigrati. A Parenzo, ma te deve schiattar core. Pronto! Beppe, porca puttana! No! No! Allora andiamo a Roma da Aldo, caro Parenzo. Ma Aldo, quello, da Roma. Chi è quello che dice, quello che dice no e freccero? Ma sì, quello che dice pronto, chi è quello lì? Beh, è una maga, è una maga, è una maga, è una di quelle che sai che ancora campa con la gente che chiama al telefono. Pronto? Ma chi è? Pronto? Pronto! E questa chi è? Ma chi è? Beh, Pierla Sultana si, no, chiama, si chiama Pierla Sultana. Ma bisogna richiamarla assolutamente. Lo so, è un è un lavoro molto duro da fare. So. Con Pierla Sultana. Ma chi è? Ma veramente? È un terribile, fastidiosissimo. Allora, Aldo, vai, Aldo. Senta, buonasera, signor Cruciani. Dimmi, Aldo, dimmi, caro. Desideravo dirle che sì, io sono rimasto molto colpito, molto male. Sì. Il segno negativo. Beh, quando sì, lei ha ironizzato molto sul significato del del 25 aprile. Sono figlio di un perseguitato politico. Bravo, che bravissimo, durante il ventennio è stato privato della libertà, lo del ricordi, lavoro, dello stipendio e della famiglia. Quindi no, e se lei adesso parla liberamente in modo anche abbastanza sciatto, diciamo soltanto sciatto, lo è per quello che lei mi ascolta, ai signori come mio padre, ai partigiani. Ma io questo non l'ho mai messo in discussione, ma non l'ho mai messo in discussione questo, scusi. Lei ha detto no, la storiella che ci hanno liberato, io che sto a Roma. Assolutamente, ho detto che il ruolo al 90% senza gli americani stavamo ancora sotto baffino. No, è stato liberato dai partigiani. Hanno fatto uccidere centinaia di patrioti. Ma non dire cazzate. Stando 12 mesi fermi ad Anzio. Vabbè, ma lasci perdere adesso la storia e i dettagli della storia. Sto dicendo, senza gli americani, senza gli americani non andavamo da nessuna parte. I partigiani hanno liberato l'Italia. Ma no, a Milano, medaglia d'oro, ma scherzi, ma che c'entra? Al nord era così, al nord la resistenza partigiana è stata determinante. Di storia e si parla di questi valori, Aldo, io ancora credo, ho detto, in questi ma valori. Tu puoi credere quello che vuoi, anche alla, ma tu puoi credere anche alla Babbo Natale, non è quello il problema. No, io non credo a Babbo Natale, io sono un ex docente, perciò non credo a Babbo Natale, io credo nei valori oggettivi della storia. Ma io sto dicendo semplicemente, ho detto che senza gli americani non andavamo da nessuna parte. Ma non è vero, al nord, qualsiasi storico ti dice il contrario. Chi se ne frega, non dobbiamo fare. Storico ti dice il contrario. Non dobbiamo fare la storia qui. Ma infatti Simone, dobbiamo dire le cose vere. Ma cioè, al nord disprezzare la storia. Ma chi ha il riso? Ma chi ha il riso? Buonasera. Ma di che parli? Sei impazzito? Simone da Milano, dai Simone, forza. Ciao, ciao Giuseppe, ciao Parenzo. Sì, ciao. Sì, sì. Allora, io volevo parlare della manifestazione del 25 aprile a Milano. Che è successo? Ma ragazzi, ma la gente è normale. La gente se ne sbatte i coglioni delle manifestazioni del 25 aprile. Ma non è vero, non è vero. Se ne sbatte, la gente normale lavora, si va a divertire e va alla manifestazione del 25 aprile. Ma dai, non è vero, su. Milano e Roma. Ma la carne balata il 25 aprile a Milano. Non lo so, non c'ero, non mi interessa. Innanzitutto perché davanti c'erano le merdacce del PD con la bandiera del Vabbè, questo che c'entra, scusami. Un'iniziativa straordinaria. C'era la brigata ebraica. L'unico partito serio era il Partito Comunista. Partito Comunista. Vabbè, serio. Simone, qual è il problema? Perché ci stai chiamando? Scusa, aspetta, perché ci stai chiamando? Perché è ubriaco. Perché il 25 aprile è una manifestazione tradita dove non vi è il vero spirito della resistenza. Ma chi se ne frega del vero spirito della resistenza? Perché la antifascismo e anticapitalismo. Ma che cos'è? La lotta armata, la lotta armata con le pistole contro i padroni. Ma sarà uno dei carc, te lo dico io. Ma tu sei malato di mente. Tu sei malato di mente. Tu sei un malato di mente, estremista di sinistra. No, ma che estremista? Di mente, basta. Non sono. Lei è uno dei cani. Sei comunista. Il comunismo è stato uno dei peggiori drammi della nostra storia. Mi dispiace per te. È stato il fascismo. Il comunismo ha dato tanto da mangiare alla gente. Sì, a tua nonna. Questo è un pazzo. Dai, questo è un po'. Ha dato da mangiare alla Germania dell'Est. La Germania dell'Est. Assassini. Avete ammazzato un sacco di gente in giro per il mondo. Mao, Stalin, eccetera. Ha ammazzato un sacco di gente. E avete ammazzato anche in Italia. Come ha raccontato Giampaolo Panza. Avete ammazzato un sacco di gente anche in Italia. Avete ammazzato. sì. Non è vero. No, cioè, non Stalin è vero. Ha fatto le purghe, è vero, ma tutto quello che si dice è falso. Ah, è falso, Stalin. Adesso ha rivalutato Stalin, propagandoci. Ma tu dove sei nato? Quanti anni hai, Simone? Scusa. Io ne ho 30. A 30 anni già hai questi idee in testa, ma sei a cavallo? Io ho studiato, io leggo. Ma che hai studiato? Leggo Marx, leggo Lenin. Ecco, appunto, quello è detto. Giusto là possiamo arrivare. Cioè, Marx e Lenin, ti accontenti di leggere Marx o Lenin? C'erano arrivederci, tanti trotschisti Simone. Oggi, tanti trotschisti. Sì, 2, 4, 5, insomma, 4, 5 trotschisti. Ma questo è il pazzo totale. Ce l'ha con i trotschisti, ma vai a scopare. Ma vai a scopare, amico mio, vai a scopare. Senza pensare a Trotsky e Lenin. È roba vecchia, morta, finita, morta, roba finita. Ma si scopa bene con le canne come oggi? No, io non mi faccio le canne, non mi drogo, non bevo. Non ti drogo. Chi si fa le canne sono i fattoni dei centri sociali. Ma tu sei comunista vero? Tu sei comunista vero? Io sono comunista, non sono né dei centri sociali né sei comunista italiana. Vero? Sei comunista tutto d'un pezzo. Comunista. Non sono trotschista. Ma uno non si vergogna poi di che sono comunista. Uno si dovrebbe un po' vergognare. Ma cosa dice? Non sono trotschista del 2017. Ma cosa vuol dire? Non sono trotschista. Sei un coglione. Che tu sei piacere, Parenzo. L'Unione Europea sostiene Poroshenko, certo, che è un nazifascista. Poroshenko, un pirla, pirla. Questo comunque è buono, Simone. Questo un grande combattente, è un povero ideologico. Gaetano, pazzo. Provincia di Latina, vai. Gaetano? Oh. Pronto? Dimmi, buonasera. Gaetano, dimmi. Gaetano mi ha detto che viviamo. Gaetano, forza. 25 aprile escono fuori i matti. Dai, a forza. Me del 25 aprile non interessa nulla. Ho chiamato per dire che la teoria di Augias, quella sulla signora Brigitte Macron, non è totalmente campata in aria. Cioè, secondo te le donne francesi voteranno per Macron perché dicono, vabbè. Sì, ne ho una un metro qui a fianco, e tra l'altro anche più grande di me, quindi diciamo una certa similitudine con il futuro presidente francese. Cioè, mi stai dicendo che anche tu stai con una donna più anziana? Sì, ma solo di 6 anni però. Vabbè, non ma di che stai a parlare allora? 6 anni? Ma 6 anni è normale, dai. 6 anni? A Cruciani, e mica sono scemo. Scusa, no, non ho capito. Quanti anni hai tu, Gaetano? Io ne ho 46 e la mia compagna ne ha 52. Vabbè, ma siamo alla normalità. Però volevo dire che non vivendo più in Francia da molto tempo e non avendo un'idea politica precisa, questa faccenda della signora Brigitte l'ha affascinata molto, e quindi molto probabilmente, se lei dovesse andare a votare, come andrà fra 15 giorni al consolato, voterà perché è francese per lei? Perché è francese? Sì, è francese, è di Marsiglia. È francese di Marsiglia, 6 anni più grande di te, e dunque la teoria di Augias che sostiene che le donne francesi sono totalmente campata in aria, almeno nel mio caso, cioè, in questo caso singolo. Cioè, praticamente, com'è che ha detto Augias? Ha detto che c'è speranza per tutte, sono c'è speranza affascinate da questa grande storia d'amore di un studente. E dunque la tua compagna di 6 anni più grande andrà a votare per Macron perché in pratica anche lei si immedesima nella vecchia signora che si innamora del ragazzino. Questo vecchia, è il punto. Insomma, bravo. Bravissimo Cruciani. Ecco, si sta mettendo le mani in testa e ride. Fammi ci parlare, come si chiama questa qua? No, io parlo si chiama Marijan, ma non ci vuole parlare con te perché dite solo parolacce. Ma non per parlare francese, ho per parlare francese avec la mano. Lui parla pure francese, Marijan. Un attimo, passami questa Marijan. Non ci vuole parlare con te, ma perché Marijan? Parla italiano o no? Parla italiano o no? Assolutamente. Fammi parlare italiano con Marijan, amico mio. Dai, la MILF, dai, forza. Non ci vuole parlare. Vabbè, più tardi ci parliamo. Ciao, che dà? Ciao. Allora, caro Davide, chi non vede bene in realtà è l'unione tra Macron e la signora di non so quanti anni, quant'è la differenza? 39, 60? 64 rotti, no? Ne hanno, che hanno detto ieri 29 anni di differenza, 28, 27, 28, 25 anni, 39, 64. Sì, 25 anni di differenza. Chi non vede bene questa unione, addirittura ha detto innaturale, è Mario Adinolfi con noi. Buonasera, buonasera. Ciao Mario. Allora, spiegami tutto, perché è innaturale secondo te? Per me è la cosa più meravigliosa del mondo, l'unico motivo per cui potrei votare Macron è questa roba qua, lo sai come la penso. Infatti è pieno il mondo di persone 39 sposate con persone 64, no? No, ma non è pieno il mondo, assolutamente no. Ma l'amore non è che puoi mettere delle barriere. Non è pieno il mondo perché naturalmente perché di solito è naturale, perché di solito un uomo cerca una compagna più giovane con cui figliare, la natura porta a questo. Ma chi l'ha detto? Ma se lei ha già dei figli, ma l'attrazione non vuole... fisica e l'amore non è che dipendono dall'età, è uno ovvio, può anche innamorare. E allora, di un cavallo, di quello che vuoi, questa è nella condizione di naturalità, sì. L'istinto porta a cercare la compagna con ma cui chi te l'ha detto? Costruire ma la chi prole, te l'ha detto? Scusami, lo dico io, dice la natura. Però Mario, certamente la maggior parte delle coppie, non la maggior parte, la stragrande maggioranza delle coppie sono coppie perché che più o meno sono dei conformisti no, o perché no ma ciò spiega questo. Il mistero dell'amore però ma che vuol dire ognuno si innamora di, no, però, di... non sono dei conformisti sono le persone che seguono l'istinto naturale che è ovviamente quello poi vogliamo raccontare che la storia diciamo così particolare ma è un cattivo strana. Esempio secondo te questo qua è un cattivo puoi dire che è un cattivo esempio no io volevo semplicemente dire quello che poi dopo si dice in Francia da mesi non ho fatto nient'altro che riassumere una parte del dibattito beh insomma a modo tuo ma ho scritto 8 righe, non mi sembra di aver fatto una cosa così drammatica. Vabbè, ma dovresti essere contento che si parla delle cose di cui scrivi. Cioè... In Francia si dice che questo elemento copre in realtà qualcosa che non va nella personalità di Macron. Cioè, hai dato del frocio a Macron, dai su, hai dato del frocio non a Macron. Ho dato del frocio a Macron. Vabbè, in Francia si dice che lui sia con il capo di Radio France, ha dovuto addirittura fare una smentita. Sì, in Francia. Io non sono un ologramma. C'è un dibattito che c'è. D'accordo, dopo, però voglio dire, ma secondo te è così? Lui è omosessuale? Ma io credo che qualcosa che non va in una personalità che, ripeto, a 39 anni sta come ai 64, ci sia. Uno che rinuncia di essere padre, uno che si sposa con uno che diventa nonna. Vuol dire. Cioè tu dici addirittura non sta tanto bene, hai detto. Nella mia opinione non... io dico che secondo me non è uno che non sta tanto bene. Cioè, secondo te è uno instabile, diciamo, cioè non è in grado di dell'instabilità cioè... che sia etero diretto da principio. Etero franchezza, ma io non in tutta franchezza credo che votare un presidente della Repubblica che si fa dire il tono della voce che deve utilizzare dalla moglie 64enne sia una questione che politicamente va discussa. Non si politicamente. No, però vuol dire lui sta dicendo. Ma chi lui se sta... ti rendi conto? No, lui però, scusa, io ma adoro. Io adoro. Ma gli attollati, Nolfi, si parla di chi si mette nel letto il futuro premier. No, però è vero. Come si parlava di Hollande, di Hollande traditore. Come si è parlato di Hollande troppo leggero. Per lui la mette con una discussione. Scusa, la differenza fondamentale è questa. La personalità di Hollande è stata violata evidentemente la sua autorevolezza. La scelta col motorino ma ha spostato il Partito Socialista Francese. Ma figuriamoci se è stato quello. È stato il suo quello, non governo alla fuitina di Hollande che ha costato le elezioni. A discutere le scopate di Berlusconi. Ma di che parliamo? No, è vero, dai ragazzi. Ha vinto per 20 anni. Su questo ha ragione Mario. La personalità di una. Ma fate finta che non è vero. Fate tutte cose che sono surreali. Stavate lì, No, perché mi pare che la presenza questo, dell'amore con questa signora Brigitte, più vecchia di lui di 25 rotti anni, non è di natura e questa è la cosa folle che tu poni che una questione vabbè, politica schifo, sotto le lenzuola di Macron, perché infili diverso, lì c'era una questione con delle ipotetiche minorenni, era un presidente del Consiglio, ma certo, ma perché devi mettere anche lui e che reato avrebbe commesso Macron? Anche lui è minorenne quando lei è professoressa. E infatti non ci si è fidanzato, lo diciamo non era premier. A 17 anni non era premier. Ma io voglio capire, ma siete curiosi? Ma perché devi infilare il tuo naso? Non tu, Giuseppe. A di noi infila il suo naso dentro le lenzuola di Macron. Però scusami, Mario, in un altro paese, quando una professoressa si mette con. Va in galera. Non si è messa, ma perché date fake news? Non si è messa, che ne sappiamo, è una fake. È ma avete letto quello che ma guarda che incredibile, è dovuto andare dai genitori 17 anni a scusarsi e genitori traumatizzato, mi pare sia rimasto traumatizzato, hanno allontanato Macron dal comune dove si trovava e l'hanno mandato a studiare, non l'hanno allontanato, hanno studiato a Parigi e l'hanno allontanato, ma dove sarebbe lo scandalo? Non riesco a capire, ma non lo qual è lo scandalo? No, lo scandalo c'è stato, su questo non c'è dubbio che c'è stato. Quale sarebbe? Mi spiegate lo scandalo? Ma spiegatemi lo scandalo. Ma tu, a me non me ne frega niente, mettete i vostri nasi dentro le lenzuola di Macron. Scusami, no, ma non me ne frega, scusami Davide, scusami, questo signore oggi ha 39 anni, è innamorato da quando quando ne aveva 17 della sua ex insegnante di teatro. 15 per la precisione. 15 quando aveva 17, d'accordo, scandalo incredibile, benissimo. No, a un certo punto questo signore arriva al ballottaggio, arriva al ballottaggio, e oggi ci interessa che l'amico Adinolfi metta il suo naso. Quello che dice Macron effettivamente dice tutto e contro di tutto, per cui è evidente che ci interessa, che ci interessa di politica. I media francesi affrontano questo nome. Lo affrontano da un punto di vista del gossip, non della politica. Fermi tutti. Da un punto di vista del gossip, del colore. Mario, tu voteresti la Le Pen in Francia? Farei molta fatica, ma credo voterei scheda bianca, perché Macron non riuscirei veramente a votare. Non riuscirei a votare. Manco la Le Pen voti allora? La Le Pen ovviamente, insomma, ha una storia molto particolare. Meno male che qualche argine gli è rimasto. Però la fortuna nostra è che siamo spettatori di tutto questo. Quello che dovrebbe interessarci è vedere se quella roba deve tracimare in Italia o no, che è una cosa interessante. Quella roba cosa? Ah, politicamente dici. Sì, il nulla. Però invece voglio capire da Adinolfi. Se è il, diciamo, il portato del le ragazze, scusami, il contrario invece fa scandalo. C'è una ragazza che capita molto spesso. Perché un uomo invece si mette una ventenne che si mette con un sessantenne? Perché nella natura il sessantenne molto spesso fa figli con quella ventenne. Cioè, è più naturale, dici, è più naturale. Esattamente. Bene, naturale. Quindi se tua figlia ti portasse a casa, Emanuele Macaluso, ad esempio, o un altro signore, o un ottantenne, o Rocco Buttiglione, ecco, figlia si portasse a casa il settantenne Rocco Buttiglione, tu saresti contento. Le giovani di Olfi sono cresciute bene, sono figlie allevate. Però spiegami, perché trovi normale che una ventenne si metta con un 65enne? Non lo trovo normale, infatti le ventenni con i 65 anni sono rarissime. Quando capita, molto spesso, guardiamo i fatti di cronaca, vanno a fare figli. Senti Mario, tu riduci tutto a fare figli. Non è una cosa proprio secondaria, riduci tutto, cioè per te la dimensione dell'amore è solo quella dei figli. Senti, una cosa voglio sapere da te, Mario. Bergoglio sta facilitando l'invasione degli immigrati, come dice Salvini? No, non credo proprio. Cioè, queste sono follie. Però ti ho visto un po' anti-Bergoglio, te, eh? Ti ho visto un po' antipapa. Mai, non trovami una frase che ho detto antipapa. Senti, un'altra cosa, oggi si sposano, anzi, no, il 27 aprile si sposerà un transessuale che non ha cambiato sesso. Ah, questa è un'altra carnevalata divertente. Ma perché carnevalata? Questo qua non ha cambiato sesso, nel senso c'ha ancora l'uccello. Questo qua è un uomo, molto semplicemente. Ma c'ha la carta d'identità diversa. Ma io non ce la faccio più a discutere dei comunicati stampa fatta dell'associazione trans che fa. Vabbè, ma si sposano, qual è il problema? Si sposano, qual è il problema? Ma dovreste essere a favore dei matrimoni, è solo pubblicità. È pubblicità puttanate. Ma magari si sposano perché si vogliono bene, si amano. Non si possono sposare, è un uomo. Ma no, nella carta d'identità ormai è donna, arrenditi, è donna. È un uomo nel cromosoma, nel fisico. Ma che te ne frega te? Ma io non ho capito, ma che cambia la giornata? Ma che te ne frega? E allora, lascia che si sposino, si vogliono bene, due uomini, che si sposino. Articolo 29 della Costituzione. La famiglia e società è una iattola. Allora, quel matrimonio lì andrebbe proibito, andrebbe fermato secondo te? Certo, andrebbe fermato. In che modo? Con i carabinieri? Con che ma cosa? Ma credo che l'ufficiale è stato civile davanti a una persona che è un maschio, a tutti gli effetti un maschio. Debba dire no. Debba dire no. Comunque, guarda, i matrimoni gay per adesso sono stati pochi. Dunque, di che pochissimi. Che paura avete? Appunto. Cioè, non è che distrugge la famiglia, distrugge la società. Dovete capire una cosa: io non ho paura. Io guardo questo carnevale. Sì. E dico, ma questo carnevale che bisogno c'è? Ma perché devi offendere chi ha un amore diverso da te? Ma io non ho capito, veramente. Lui è poco, è poco cristiano. Lui dice che non si possono sposare. Ho capito, ma io gli obietto che tutti si possono innamorare di chi vogliono, questo è ovvio. E allora? L'istituto del matrimonio, che esiste dal codice di Hammurabi, non è una cosa che si è inventata di Nolfi nel 2017, è un istituto che serve a tutelare fondamentalmente. Quello è il codice tuo, quello di Hammurabi. Dal codice di Hammurabi. Allora, un'altra cosa, Mario, un'altra cosa, hai fatto incazzare gli animalisti nei giorni scorsi. Pure, ti faccio sentire, perché? No, dicendo che gli animali non hanno un'anima, perché le scaloppine, gli animali non hanno un'anima, eccetera. Ti faccio sentire una roba. Ti faccio sentire una roba. Io trovo intollerante questo attacco alla moglie di Macron. No, ma ti faccio sentire una roba. Ora, sai che c'è oggi. C'è stato un posto a Prato dove hanno fatto il pranzo dei partigiani. Gli animalisti sono andati a rompere i coglioni. Dicendo che l'arista col maiale non si può. L'arista col maiale non si può mangiare. Vabbè. Allora, un gruppo vegano ha chiamato questi signori partigiani. Senti cosa succede. Senti. Pronto? Sì, buongiorno. Ho fatto il numero giusto per il pranzo del partigiano? Sì. magari un po' in ritardo, però il numero è giusto. Voi non vi vergognate a festeggiare la liberazione mangiando cadaveri di esseri viventi? Li avete già mangiati e non ha niente da ridere. Guardi, lei. Io mi permetto di ridere come quando vi pare. La ringrazio, è un simpaticone. Guardi che le faccio i miei migliori complimenti. Guardi che mi servono un numero. Guardi che gli animali fanno. Buona giornata. Ma con chi? Pronto? Facile sbattere il telefono in faccia. Lei sappia che anche gli animali fanno la resistenza. Lei si deve vergognare come tutti quelli. Guardi, io questo vuol dire infangare. Mi vergogno di stare a perdere tempo con una persona come lei. No, lei si deve vergognare. Vergognatevi a mangiare la rista. Vergognatevi. Pronto? Avete mangiato? Avete finito? La maiala di Tomassi, si è mangiato la maiala di Tomassi. Era buona, ma anche il porco di tuo padre si è mangiato. Ciao. Festeggiate la liberazione così? E tre ore mi chiama, dice avete. Vergognatevi! Ma chi? Questo è per i vegani, è da stamani. La mia specialità è lo squirting, amore. Beh, amica mia, Parenzo! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Spruzzavi, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose, io cago addosso ai clienti. La zanzara. Máxima extrazione, minima penetrazione, se pa bon. Máxima penetrazione, se bon. Très bon. Très bon. Beh, in questa trasmissione che è il top, caro Parenzo, del libertinaggio amoroso, non possiamo che ospitare ogni tanto Mario Adinolfi, il quale ha espresso le sue idee, come avete sentito, sulla Premier Mam, quella che chiama la Premier Mam se Macron dovesse vincere le elezioni. Tutti quanti dicono che è molto facile che vinca queste elezioni francesi, caro Parenzo, signor Macron. Speriamo, signor Macron. Speriamo. Speriamo, no, io non spero. Io ho detto in Francia non sarei così sicuro, In Francia io voterei, lo dico, in Francia la io voterei è aperta tranquillamente per la signora Le Pen. Non mi faccio tutti questi scrupoli che si fa di nuovo sulla Le Pen. Ognuno vota quel che più lo rappresenta, ecco, non c'è allora problema. Elton John sta molto male, caro Mario, pare che abbia un'infezione, non so in ecco, che tutto cosa. Quello che gli ha augurato. Spero che l'abbia superata, insomma, mi spiace molto. Forse addirittura alcuni dicono mortale, però io voglio chiederti una cosa: gli animalisti ti hanno massacrato dopo alcune frasi che hai detto, per me sì. Assolutamente normali, come sai, sì. Assolutamente normali. Io mi spingo, non dico un po' oltre, a dire una cosa: bisogna affermare in maniera chiara, netta, la superiorità dell'uomo sull'animale, ma non perché l'animale debba essere trucidato, debba essere maltrattato, eccetera, eccetera, perché è così, ragazzi. L'uomo, ma certo, ma che è ovvio, diciamolo, un grande proclama, insomma, l'uomo è superiore all'animale, questo è ovvio. Ma no, ma sai, molti mettono sullo stesso piano l'uomo e l'animale. L'uomo è capace sì, delle mani. Una volta, non fatevi incantare dalle carnevalate: il 99% delle famiglie, il giorno di Pasqua, ha mangiato carne allegramente, finita attorno a un tavolo. Questo non c'è dubbio. Dai. Le carnevalate sono carnevalate. Vabbè, adesso che c'entrano le carnevalate con i trans è una cosa concreta. No, ma anche gli animali, dallo stesso tipo di meccanismo. L'idea che l'autodeterminazione possa far scambiare ciò che è per ciò che non è. Allora, l'uomo è superiore all'animale. Questo è. L'animale è superiore all'uomo. Questo non c'è. Fine, non è una discussione. No, soprattutto l'animale è spesso al servizio dell'uomo. Questo è il punto fondamentale. Ma ovviamente, senza spesso, è al servizio dell'uomo. Ovviamente è così. Sì, e poi comunque, questa ipocrisia, ma la spiegate sui sorci, sulle zanzare, sulle mantecane, su quelle. Che cosa succede? Lì si tutelano, non si tutelano, si può mettere un topicida o non si può mettere il topicida. Quindi è roba totalmente I più coerenti dicono che i sorci non si ammazzano, altri invece Si nutrono, si curano, si devono portare a casa e tutelare. Allora con questo abbiamo ucciso l'umanità. se facciamo questo uccidiamo l'umanità. Sì, no, ma anche senza cucinarli l'umanità muore, molti non lo sanno, ma se non si allevano e poi si uccidono, purtroppo moriamo tutti, questo è abbastanza chiaro. Se i bambini non sono nutriti con carne, non hanno quell'apporto proteico fondamentale alla loro crescita. Ma allora, chi educa in modo vegano i bambini, che cosa faresti con questi qua? No, andrebbero assolutamente segnalati almeno per verificare che il bambino cresca tutti gli apporti nutritivi di cui ha bisogno. Cioè andrebbero messi in galera, dici? Non messi in galera, attenzionati sì, però bisogna vedere. Segnalati. Attenzionati è un termine da questura. È da questura, esattamente. Se tu fai male a un bambino... questa cosa è un problema serio per la società. Quindi se tu non fai mangiare carne a un bambino e gli neghi l'apporto proteico determinante per la crescita, segnalato immediatamente. Segnalato. Le autorità valuteranno. Ora, su questi punti, ripeto, non facciamoci fregare dalle mode. Le mode, chi si fa fregare? Le mode passeranno. Beh, le no, magari non è solo una... Comunque, l'altro giorno un prete ha suonato le campane a morte per la questione del bio. Delle marche, ragazzi, tutti i preti, quattro scannagatti, dai. Erano quattro imbecilli, dai. Erano quattro. Uno ha detto che la vita non è la mia. Cazzo, io della mia vita posso fare quello che mi pare. Se mi voglio ammazzare, se mi voglio suicidare, perché sto male, perché soffro, questo corpo qua è mio. Mio, cazzo. Ma certo, ma perché Mario sei così intelligente? Non capisco perché non affermi questa valutazione per un sacerdote. Perché ci neghi questa possibilità? Un sacerdote, la valutazione è diversa. No, ma tu per te pure ci negate il diritto. Tu rispetterai la valutazione. Adinolfi, ci stai negando un diritto che è il nostro diritto di disporre del mio corpo, del nostro tutti corpo. Tutti potete disporre di tutto. Nessuno nega niente a nessuno. Perché oggi non mi è possibile fare praticarmi il suicidio assistito. Oggi non è possibile. Che l'ordinamento svizzero sia un ordinamento da importare in Italia. Assolutamente sì. Uccidere a pagamento. Ma chi uccide a pagamento? Sofferente. Così funziona l'ordinamento svizzero, è quello. Io dico che quell'ordinamento è barbarico e incivile. Barbarico è continuare a farmi vivere contro la mia volontà. Vabbè. Barbarico è farmi vivere contro la mia volontà. Ciao Mario, ciao, presto. Ciao. Ragazzi, fra poco una grande sorpresa qui in live. Finalmente cominceremo. Fra poco una grande sorpresa fatta apposta per il giorno della resistenza del 25 di aprile. Meno male. Perché anche le donne si devono liberare. No, anche le donne. Ho detto semplicemente. Donna partigiana. Sì, sicuramente. Anche le donne si libereranno. Finalmente. Una persona, non dico né donna forse né per uomo. La prima volta hai fatto un'iniziativa importante. Perché hai chiamato una donna a testimoniare quel che è stata la staffetta partigiana, il ruolo, ad esempio, delle montagne. Ti dico solo che sarai soddisfatto della mia scelta, caro David. Ti dico solo che sarai soddisfattissimo della mia scelta. Non sono porcherie come al tuo solito. No, ma che porcherie. Leggiamo dei passaggi dei lettere dei condannati a morte della resistenza, quello delle donne. Guarda, questo leggeremo fare. Qualcosa, anzi canteremo qualcosa. Canteremo. Bella ciao. Ma lo so, vedremo. Già abbiamo un bella ciao che è stato avviato prima, ecco, no? Quello non mi piace. Ma perché ti piace? Perché è bellissimo. Qui a Roma non un si ascoltatore eccezionale. Non si sentono le parole. Senti di nuovo. No, oggi non è giornata, viene distorto tutto. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Una mattina lei ha squirtato, diceva oddio, oh mio Dio, Dio, Dio. Una mattina lei ha squirtato ed ho provato un'emozione. Pochi minuti, Parenzo, e ti presento una persona, simbolo della resistenza oggi, simbolo soprattutto della liberazione. Tremo. La liberazione. Io non ma so perché tremi? Una persona tremo per già. Bene, una persona con la schiena dritta. Con la schiena dritta. Ci mancherebbe altro, tremo già. Beh, sono un po' particolare questo giorno, però non tremare, non tremare. Tremo non già, tremare. Posso tremare già. Claudio da Milano. Un po' intanto. Ti conosco. Claudio da Milano. Tremo di conoscerti. Dimmi, Claudio. Eccomi dimmi. Qua, carissimo Cruciani. Dimmi, bravo. Anche la resistenza, certo, no? È diventato anche questo il giorno per fare ironia su un periodo storico particolare. Non so, morti di tutti. È una bella festa oggi, però. di tutti i colori, proprio fascisti, comunisti. Vabbè, che vuoi? Cosa qua, ma perché? Che vuoi? Ma parla di stronzate, ma non di queste cose qua. Poi le armi. Ma tu ti rendi conto? L'italiano è già un popolo che è diviso di per sé, perché la storia ce lo insegna. Sì. Diamo tutti a un'arma, no? Per difenderci. Io non da ho detto chi? Diamo a tutti da un'arma. Mai detto, certo, mai detto questo. Mai detto questo. Mai ho detto che c'è il diritto. È il diritto di sparare. Il diritto di sparare e di non andare sotto armi. Ma io non sto facendo propaganda per nessuno. Stai dicendo una cazzata. Stai dicendo che io sono non pagato dalla lobby delle armi. Certo, stai che ti paga la lobby delle armi. Adesso ti porto in tribunale. Ti porto in tribunale, vergognati. Ma non sono pagato da nessuna lobby delle armi, chiaro? Claudio? Ma allora senti un po'. Ma ti porto allora in tribunale e ti faccio un culo voce, così, capito? Non sono pagato da nessuna lobby delle armi. Non ho mai parlato con nessun lobbista delle armi in vita mia, chiaro? Ma però si rischia che si prenda. Vedi che fai uso anche tu del tribunale, giusto? Diffamato. Non porto nessuno in tribunale. No, no, devi portarlo perché ti ha diffamato gravemente. Parenzo, sei diventato anche tu una persona. No, io di dico quelle che se tu accusi, ma io dico che se tu accusi di Cruciani, posso discutere con lui ogni giorno su mille temi, ma siccome lo conosco al 100%, se gli dici essere che è pagato dalle hobby delle armi, secondo me farebbe benissimo, perché no, non è vero, lo conosco da 10 anni, faresti benissimo a portarlo in tribunale, perché è una diffamazione. Se le possono comprare anche i bambini. Giusto, non è vero, no, no, non è vero, non è così. Hai fatto una diffamazione. Le usano in casa, ogni guarda, tanto i disastri. Amico mio, non ho portato in tribunale quel coglione di male. Dovresti di vassallo della dovresti portarlo. Ma no, ma Claudio, ma chi se ne frega? Ho detto semplicemente che quando tu dici che sono pagato dalla lobby delle armi, dici una strozzata, perché io non ho mai avuto nessun contatto. No, ma te lo dico, non ho mai avuto nessun contatto con nessuna azienda delle armi in Italia. Che rispetto, però non li considero dei banditi come molti altri li considerano, che rispetto fortissimamente. Rispetto anche quelli che mettono le mine, costruiscono le mine anti-uomo. Ma che c'entra le mine anti-uomo? Ma non c'entra. Se non le vendono loro, le vendono altri. Le mine anti-uomo, dai, ho su capito, le armi si sono sempre migliore, vendute. Si sono sempre vendute le armi. Se, amico vogliamo mio, le armi servono spesso per difendersi. Servono spesso ma per io difendersi. Non sono contrario al fatto che siamo per difenderci, ma così sta diventando. Ne sento tanti che dicono io me la compro, tanto non me ne frega. Oppure in Italia, tanto ma nessuno, ma non è così semplice. Non è così semplice, Giuseppe da Brescia. Ciao Claudio, Giuseppe Brescia, vai, Giuseppe Brescia. Ciao, volevo solamente dire una cosa, sarebbe fatto incazzare, sì. Non puoi dire che te ne sbatti i coglioni della resistenza, perché la gente è morta. Io non ho detto me ne sbatti i coglioni della resistenza, ho detto semplicemente della festa, non della resistenza, del 25 aprile, me ne sono sempre sbattuti i coglioni. Ricordando quelli che perché sono è una morti, festa, della festa, ma no, ma io figurati se me ne sbatti i coglioni di chi è morto, cosa vuol dire? Ecco, io della festa del 25 aprile me ne sono sempre sbattuto, perché è stata sempre appaltata dai comunisti. Ma punto, è sbagliato, ma non è vero. La resistenza non l'ha fatta solo i comunisti. Vabbè ragazzi, ma chi se ne frega della storia oggi? Ciao Giuseppe, me ne sbatto, dai, non parliamo di storia. Ma gente è morta. Sì, è morta, benissimo, tanto di cappello, benissimo, commemoriamo. Non i miei diritti nulla. Mi hanno insegnato. La festa insegnato della festa non me ne frega niente, è importante. Ah, non te ne frega niente. Ho detto semplicemente che la libertà ci è stata regalata da alcuni signori che sono venuti qui. Sono poi d'accordo. Gli americani sbarcati e dai partigiani che al nord hanno combattuto per liberare l'Italia. Ti saluto. Ricordati di Salò. Ti saluto. Ricordati di Salò. Ricordati di Salò. Ma quello che c'è da mica è caduto per i partigiani, dai. Dov'è la Salò? Giuseppe, dov'è ciao. La Salò? Ciao. Al nord o al sud? Caro Parenzo, ecco. Oggi giorno della liberazione. Beh, anche un giorno in cui le donne si devono liberare da molti tabù. Ma non ci sono più tabù. Liberare da molti non ci tabù. Sono tabù, liberare mi pare. Tremo. Abbiamo con noi momento, un personaggio. Dottore, per cautela, ha detto che forse va fuori con trocchetti plovela. No, di pesce blanzino al forno. È con noi, Ruggero dei Timidi. Buonasera. Buonasera a tutti. In diretta. Attacchiamo subito. Lo squirt libera le donne. Vai. Quanto è stata amara quell'estate al mare senza far l'amore. 20 anni fa io ti lasciai sola su quella battigia. Tu che mi dicesti, ma perché mai fuggi, di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Tutti assieme vai! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiaman squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. All together! Bruce passavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Mi visitò un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Vai! Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e Parenzo su quella spiaggia, stavolta non scapperò, no. Ora ho capito tutto. Cruciani mi ha mostrato dei documentari sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì. E ne fanno tanta, questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami. Timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirti. Andiamo con l'ultima. Timidamente io, timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirti. Ruggero dei Timidi con noi live a Milano. Lugello, dottore, saluta molto signor Lugello, ma svenuto bianco come un cencio, dottore, svenuto arrivato di Letole, gentile sole 24 ore, perché è svenuto dottore qua, parola squilting, dottore, svenuto. Ho molta paura. Caro Ruggero, come stai? Come stai? Ruggero, sto bene, Ruggero. Sto bene. Allora, poeta, in realtà si chiama Ruggero, Andrea Sambucco, Dylan, grandissimo Bob Dylan Andrea italiano, Sambucco. Tu Dylan sai italiano. Che del 75 sei proprio vecchio di me, sì. Forse per questa parrucca. No, sono capelli veri. C'è uno dentro di me che è come il Gabibbo, cioè quello dentro il Gabibbo che è Andrea Sambucco, ma l'esterno è Ruggero e non sa cosa succede signor all'interno. Ruggero. Senti, io voglio capire una cosa, signor Ruggero, sì, ma questa sì. canzone che ormai quanti anni canzone? Ha questa canzone? Questa canzone che sembra ne abbia 40, ma esatto. ne ha 4. Ha 4 anni. Ha 4. Da dove nasce? Nasce da una squirtata che hai subito inaspettata, cioè bene, c'è della biografia in questa canzone. Come nasce, scusi, ad esempio. No, non c'è direttamente una biografia, anche se c'era una ragazza che voleva, diciamo, ai tempi voleva sì, ai insegnarmi tempi. Come farla, se posso dire, squirtare, penso. Beh, si possa dire, ormai l'abbia detto, mi pare il direttore che lei l'abbia detto più volte, diciamo. Solo oggi, che di fronte a questa meccanicità io mi sono spaventato, perché sono sempre per la poesia, o è così sì. all'improvviso, cioè, ma voleva fare in maniera meccanica, sì, voleva, guarda, farti provare, guarda come squirto. No, voleva che io le facessi per farla. Ah, ho capito, con che delle... tu la toccassi per sì, fare sì, con ma delle io manipolazioni. Sono un po' spaventato, ecco, ti perché, sei spaventato, perché la poesia non mi dire che tu hai cantato questa canzone e non ti hanno mai squirtato addosso. No, no, mai. Mai. Proposte sì, però mai. Ma ragazzi, ma questo è clamoroso. Fermi tutti, che la borsa di Tokyo è impazzita per questa dichiarazione. Allora, la borsa Ruggero di Tokyo che ha cantato la canzone sullo squirting, sì, una delle più ascoltate. Sì, assolutamente. Su questo argomento. Più della cura di Battiato. Ma lo sai, lo sai Davide, che questa canzone su YouTube ha oltre 2 milioni di visualizzazioni, ho visto oggi. Sì, più sì, di sì. 2 milioni di visualizzazioni. Ma insomma, un po' di soldi hai fatta questa canzone, no? Sì, qualcosetta. Diciamo che non muoio di fame. Però Ruggero di Dimiti, nessuno mi ha mai squirtato. Ma ti sei perso qualcosa di clamoroso, caso Ruggero? Ma come mai non l'ho letto sui giornali oggi? Ma che cosa pazzesca. Ma a volte, sai, noi artisti prendiamo, ecco, da quello che vediamo in giro, non certo. sempre, diciamo. Allora, torniamo tra un attimo dopo la pubblicità, amici miei, con un'altra canzone del mitologico Ruggero dei Timidi, Giorno della Liberazione. Dottore è andato via definitivamente. Paltito. Filippino del cazzo, vuoi dire al tuo padrone Parenzo che deve tornare qui, se no gli faccio un culo così? Grazie, grazie Filippino Palenzo, grazie. Paltito. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, è la soddisfazione dell'animale. La Zanzara. Cruciani, fatto bide. Posso dire una cosa? Notizia anche oggi del Corriere della Sera. Ma chi cazzo se ne frega se tu non ti lavi e non usi acqua e sapone? Ma chi cazzo se ne frega? A Beppe! Ma pare, ma è possibile che te in 40 anni non hai trovato ancora una che ti ha squirtato sulle cosce? Io boh. Beh, Questo però è ancora più clamoroso perché Ruggero dei Timidi sì. ci ha appena rivelato che nessuno, autore della canzone Timidamente Io, dove si parla del netta dell'amore, nessuna donna, neppure la moglie qui presente al di là del vetro, soprattutto lei no. Soprattutto lei soprattutto, no. Soprattutto principio. Lei no, capito? Sarà felice, felicissima, sta qua e si diverte come una matta. Tu devi pensare sempre che le coppie sono non vogliono parlare di queste cose. Lui parla anche di questo dicendo che la moglie non gli ha mai scurtato addosso, amico, non c'è niente di strano. Ma tu vuoi andare al concerto di Ruggero dei Timidi a Milano? Sì. Io quando è? No, a Milano adesso, ma a Roma non fai date. A Roma, già fatto. Già fatto a Roma, adesso a Milano, adesso quando? 28, 29, 30 aprile al Teatro Blu. Devo venire assolutamente al Teatro Blu, Spruzzi di gloria, sentitelo, per cui spruzzi di gloria. Ci sarà anche uno spirito concentrato addosso alla gente, sarebbe straordinario. In genere lo fanno i fans. Ma è vero vengono. Che le donne dopo questa canzone qua ti hanno chiesto di squirtarti addosso? Cioè che... Sì, diciamo in particolare anche una... Hai ricevuto varie proposte? Sì, varie proposte, tra cui una: vieni a casa mia, squirto tre metri e poi vai via. Così mi ha detto. Veramente? Sì, sì, sì. No, no sesso, mi ha detto. Ah, no sesso, solo per questo. Tu te lo meriti in quanto scrittore della canzone. Cioè, quanto poeta, chiaro. Ne parlo in famiglia e ti faccio sapere. Ah, perché se anche ti picchi di essere anche monogamo. Sì, sì, sì. Sono, diciamo, purtroppo... Timido e monogamo. Sono un democristiano. Perché anche sono abbastanza timido. È innamorato, capito? Della moglie, meraviglioso come quadro questo, mi pare. Allora, bellissimo. C'è anche una maglietta, Squirt Calm and Vai con lo Tsunami. La vuoi, no. Parenzo? Pure. La vuoi, Parenzo? Io l'ho portata, per cui... Squirt Calm ah, and Vai con lo Tsunami. Dottore non vuole, io posso mettere la maglietta, perché dottore vuole divisa sempre, ogni giorno, divisa blu di Filippino. Metti questa cosa. Metti questa maglietta. Io ricordo una maglietta di Christian Bieri, sì. Sbarcato a Formentera tempo fa, in cui se squirti ti sposo. Ecco, era così. Proprio è una monografica questa puntata, diciamo, una monografica. Abbiamo parlato del 25 aprile, sì. Le brigate, eccetera, dei partigiani. Ma quale altra opera, eccolo, propone l'artista? Sta per partire. Studio, padre e figlio, sentiamo. Senti questa, ecco. Padre e figlio. Si parla di famiglia, finalmente. Sì, famiglia. Bene, vediamo. Famiglia ideale, senti, vai. Vediamo. Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste. Oh, bene, questo. Guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste. E mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans. Ribadisco, con i trans. Ha! Ormai piagnucolante il fanciulino gli chiede: padre, cosa sono i trans? Ma come fa a spiegare al suo infante? Son donne dal clitoride ingombrante. Gli dice: il trans è una cosa bella, è come aver fratello con sorella, ma uniti in una persona sola che t'ama con tutto il cuore in gola. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, ho già l'appuntamento, tu mi stai trattenendo. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, ti porto, lo prometto, quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans, anche tu andrai a trans, finalmente andrai a trans col papà. Grazie, amico mio. Grande performance della famiglia, direi bella famiglia di Nolfiana, ecco, la appunto. Famiglia di Nolfiana. Ma che bella famiglia, che belle rappresentazioni che fa lei con le sue liriche. No, scusami, caro Ruggero, ma ci sono altre opere? Sei mai andato a trans, tu? No, neanche mio padre. Neanche tuo padre. No. Cioè, tu sei praticamente la persona più... È un parenziano. Sì, assolutamente parenziano. Magari sei pure un po' di sinistra, o no? No. Sono proprio... Sei proprio... Non dico anarchico, ma insomma... Però sei uno regolare, diciamo, sposato, regolare, monogamo, sì. Mai squirtato in vita tua una donna addosso, no. Mai andata a trans, no. Tradimenti pochissimi, avrei tradito quando eri ragazzino, qualche bacio ad un'altra ragazza, oppure sei stato sempre monogamo. Sì, però no, sì, devi dire la verità. Sei uno regolare. Che canta di squirt e di papà che va a trans, che però è una, come dire, una situazione familiare, credo abbastanza, non dico abbastanza, però un po' diffusa, tradizionale, lo sarà, o no? Sì, ma io, a parte gli scherzi, capto quello che vedo in giro adesso. Cioè, papà sta andando a trans, com'è che fa il ritornello? Papà sta andando a trans. ho già perso, scusate. Gli animali con eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans. Papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans. Questa ipocrisia, no? Dice. Sì, certo. Quali altre opere ha? Io direi di concludere. No, direi ultima, facciamo ancora, ci chiama una carrellata. No, terza e ultima si chiama Notte Romantica. Oh, finalmente. Anche qua anche non c'entra qui niente con me, ma con tanti amici, giuro. Che sì, meraviglia, non dico sono a favore, Notte Romantica, abbracciata dalla persona a cui si vuole bene, che bello, finalmente. Du-a-pa, du-a-pa, du-a-pa, du-a-pa. Stasera mia moglie è con le sue amiche, così mi ha detto, io mi fido, Sarà una serata un po' malinconica. Bevo un amaro, vado al videopoker, faccio quattro passi tra negozi del centro, poi leggo un'insegna che dice così: massaggio romantico per una notte romantica, è proprio un bel posticino con quel chiaror di lumino. Massaggio romantico per una notte romantica, davvero un bel posticino, sembra di stare a Pechino. Entro dentro e mi sorridono: buonasera signorina, piacere, Ruggero. Mi stendo nudo sul lettino. Brr, che freddo! Mi frizionano tutto il corpo, poi mi fanno l'occhiolino e all'orecchio mi sussurrano così: vuole massaggio romantico per una notte romantica. Impreparato mi coglie: ehi, cosa fa? Chi glielo spiega? Mia moglie del suo massaggio romantico, di questa notte romantica, ma questa cosa l'apprezzo, sì sì, altro che, anche se c'è il sovrapprezzo. Non ti fermare, vai, vai col massaggio romantico, vai con la notte romantica, comincio a trar giovamento da questo strofinamento. Vai, vai, vai col massaggio romantico, vai con la notte romantica, ma quanto è brava la Cina nell'arte della manina. E via ragazzi, l'elogio del centro massaggi cinese. Come sapete, ho raccontato recentemente una mia grande esperienza dentro i centri massaggi cinesi, tutto, in compagnia di una signorina addirittura doppia, caro Ruggero dei Timidi, doppia. Cioè, io e lei, sei ispiratore di tutte le storie che racconta nelle sue lire che il nostro Ruggero. Beh, no, ispiratore no, perché non ci siamo mai conosciuti. Mi ha fatto molto piacere ospitarlo oggi qui, ma tu anche lì non sei mai andato a farti fare una pippa da una cinese. Preferisco da solo, a parte, ma cioè preferisci la masturbazione così, vero signora? Conferma che preferisce masturbare, cioè, si masturba signora, anche davanti a lei, si masturba davanti non a lei. Non la interpellerei, cioè, la signora. No, niente, non si masturba davanti a lei. Però mi imbarazza andare. Ti imbarazzerebbe farti fare una sega da una cinese? Sì, sì. Sì, veramente. Sì. Bravo, c'era una persona normale, mi pare. Ma cos'è questa storia dei messaggi SMS che gli sono arrivati, che mi dicevano prima? Qual è questa storia dei messaggi? Era quello che ti ho raccontato, cioè, della vieni da me, squirto tre metri. Ah, questa roba qua. Ma perché non porti? Sai che una radio americana. Cantaci l'ultima, maestro. No, prego, no, l'ultima, no, l'ultima. Un altro pezzetto dello squirt e poi lo lasciamo. Dai. Ma che un'altra? No, un'altra, no, che altra? Voglio, voglio lo squirt per concludere, voglio lo squirt. Io sono il grande apparecchiatore di questa cosa. Fammi concludere in bellezza. Allora, devo dirti una cosa, caro David. Che dovrebbe fare uno spettacolo, così adesso ci suggerisco una cosa un po' hard. Una radio americana. Poi hanno chiuso purtroppo dopo una settimana. Ecco, appunto, esatto. Hanno appunto portato una volta una grande squirtatrice, come si chiama? Siterea, come cazzo si chiama la pornostar? Sì, quella sì, che, sì, confermo. Che, confermi, vedi che però, amico beh, guardare, mio. Guardo. Amico mio, Siterea, che squirtava in radio sulle poltroncine. Ci manca solo quello. Una roba incredibile, incredibile. Sollecitata da due. Tu però, che puoi fare il cazzo che ti pare, forse più di noi, nei concerti, dovresti portarti una squirtatrice accanto, professionale. La polizia chiude tutto. Ma sai qual è il problema? Ma vero, arrivano le famiglie coi bambini. Io non sto scherzando. Ma come? Ascoltare, non sto scherzando. Ti giuro. Figurati. Non sto scherzando. Fermateli, arrestateli. Toglieteli la patria potestà. Io potrei portare mia figlia ai tuoi concerti, secondo te? No, non ho detto che devi. 12 anni. Io ho no, detto che arrivano. Anni, no, io non ho detto che devi. Perché tu che hai una Ruggero dei Timidi, sembra una cosa normale. Uno sì, va a sentire un concerto, timido. Ma elegante, timido un cazzo. E invece lo squirting con cui ti saluto. Ciao Ruggero, squirt, vai. Quanto è stata amara quell'estate al mare, senza far l'amore. 20 anni fa tu ti lasciai sola su quella battigia. All together spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiama squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Mi visitò un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Ruggero Mettini della Zanzara, grazie, a presto. Grazie a voi. Andate a vedere sto cazzo di concerto, amici miei, via. Cos'è lo squirt? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Because you look so fine that I really wanna make you mine. Luciani, stamattina sono andato in armeria perché volevo acquistare una 9x21. Mi ha detto: che licenza ha? Tira a volo o caccia? Dico: no, no, caccia no, mica sono Cruciani. Mi ha detto: cosa? Ascolti la Zanzara, solo per questo ti faccio 100 euro di sconto. E io come ho risposto? Siamo al top. Giuseppe, abbiamo appena finito di fare all'amore. Chi è Giuseppe? Chi è Giuseppe? Oddio. Saluta Cruciani. Sì. Dai. Saluta Cruciani. Perché non vuoi salutare Cruciani? Perché mi sta sulle palle. Ma non è vero. E Parenzi invece? Anche. Davide numero uno. Ma cosa stai dicendo? La verità. Vabbè, ragazzi, siamo al top comunque. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Allora ragazzi, andiamo a Davide Torino, vai Davide. Davide. Oh, Davide. Sono qua. Vai, dimmi. Allora, volevo dire che nel caso Macron hai dimostrato veramente, tu che fai tanto il liberale, non giudico, ognuno fa quello che vuoi, puoi squirtare, puoi essere gay, però Macron ti ha dato fastidio. A me? Zero. Dato fastidio, zero il fatto che... Io? Zero? Ma figurati, ho detto che l'unico motivo... Zero. Ma dai, perché cosa dici? Paro prima quando c'era Di Nolfi. Ma io ho detto semplicemente che a Di Nolfi... non è normale, io non so... non è normale. Ma quello io non lo penso assolutamente, ma se ho detto, vedi che non hai capito proprio una mazza, non hai capito nulla, lo ha detto a Di Nolfi. Per me è una cosa normalissima il fatto di stare con una che ha 30 anni di più. Normalissima, lo dice a Di Nolfi che non è normale. A Di Nolfi dice che è un problema politico ed effettivamente è anche un problema politico, perché comunque le, i gusti personali delle persone e chi comanda in... Sono gossip, ma non problema politico. Ma è tutto... Sarebbe ragazzi, un problema politico se ci fosse un reato di mezzo. Ma è un problema politico comunque. Ma non dico che è un problema, è una questione politica comunque. Ma perché devi fare? Cioè, mi attribuisci delle cose che non dico. Figuriamoci se dico che è innaturale stare con una che ha 30 anni di più. Ma di che stai parlando? Cioè, non ho affatto detto questo. Parla di Adinolfi quando devi parlare di queste cose, non di me. Io non ho affatto detto questo. Ho detto che Adinolfi, però, ha ragione allora, quando sostiene che il rapporto. Hai avuto l'impressione di che avuto cosa? L'impressione anche Parenzo comunque era lì che tacciava sia Di Nolfi che te. No, quindi ho avuto l'impressione che io ho contrastato quasi piacere che Macron, comunque un centrista, un mezzo centrosinistra, fosse legato con una donna più anziana e di conseguenza fosse... Ma figurati, ma giudizi, ma ragazzi, ma per me è numero uno, ma ho detto ieri che per me l'unico motivo per cui io potrei votare Macron in Francia, fossi residente in Francia, è il fatto che quando era ragazzino si è innamorato e si faceva la vecchia... La vecchia insegnante, all'epoca. Giovane, era anche bella. E questo è l'unico motivo per cui potrei votare Macron ancora, dai, forza. Dove no, andiamo? Michele Salerno, vai, che dimmi Davide. Allora, in effetti, allora, se un uomo di 64 anni sta con una quarantenne, no? viene visto a livello popolare come un figo. Chi? Guarda, chi? Quello, sì, esatto, esatto. C'ha ragione, c'ha ragione. Posto, no? È una questione di potere. Ma no, ma per me non una è... donna invece sta con un quarantenne. Sì, esatto. Il quarantenne viene visto problematico, però ripartiamo un attimo la situazione. Cioè, ma la certo, donna ma per me è uguale. Ho detto prima, è ma così. Per me è identico. Dico semplicemente che Adinolfi pone una questione che anche che si pone anche la Francia. Lui aggiunge che in America Francia? Sarebbe stata arrestata. La Francia si pone questa questione nella dimensione lui giusta del gossip e del costume. Lui dice che è innaturale ma che nessun uno non sta bene di testa, uno che sta con una ti donna di 30 anni più grande perché non fa figli. Ma dai, ti risulta tu che leggi il francese in questi giorni che qualche giornale abbia posto la questione dal punto di vista politico? Se mai dal punto di vista del costume, ma non dal punto di vista politico. No, anche dal punto di vista politico. Non si sono mai chiesti, ragazzi, se Macron sarà Davide, lei ciao, sarà una buona premier. Voglio chiamare un signore che si chiama Polegato, amici miei. Prima musica prima. Brutta persona. Polegato, ragazzi, ristoratore fascista, no, ristoratore un cretino, fascista. Un cretino. Oggi come sta vivendo il 25 di aprile? Come lo sta cure, vivendo? Sotto le cure che lo Pronto? Amico Polegato, come stai? Zanzara! Come andiamo? Ah, sono in lutto, Zanzara, sono in lutto! Sei come inutile, mai? No, in lutto, no, inutile. Sono in lutto oggi! Perché? Inutile, dai. Inutile! Perché in lutto? Spiegami! No, è inutile, ha detto, non in lutto, inutile, inutile! Ma chi è quel testone da che parla? Parenzo, il solito Parenzo. Ah, ma santa, ma non mi lascia mai parlare, ma proprio... No. Un'altra cosa, lui è nato nel periodo sbagliato, se nasceva qualche anno fa l'avremmo infornato. No, beh, questo è brutto però. Come ha detto, ma a me non mi fai un cazzo a me. Io tu sei Polegato, reato, Polegato. Ha detto infornato, benissimo. Ascoltami una cosa. Non lei può ha detto una cosa per la quale la porto in chi tribunale. Vuole... Ah sì, ma portami in tribunale del cazzo. Certo. Vuoi. Ascoltami una cosa. Così ha finito di dire cazzate. Rispetto, ci vuole rispetto anche per la gente. Appunto. Non può, io prendo il telefono, rispondo a voi, sentirmi offendere dalla mattina alla sera. Scusami, Polegato, voglio capire. Ma chi ti offende? Ha offeso lei, imbecille d'un imbecille. Di Parenzo, ecco qua, te. E due, infornare e pezzi. Ognuno le sue idee. Ognuno ha le sue idee. Lei è un razzista. Lei ha detto che devo essere infornato. Quindi lei verrà portato buono, in tribunale. Io, in senso buono, la porto in tribunale. Scusami, Polegato. Io... Ma portami dove cazzo vuoi. Portami. Mi saluti sua madre. Allora, chi è Polegato lo sappiamo tutti. Di chi sia figlio non lo sappiamo, ma lo possiamo immaginare. Questo è brutto, però. Questo è brutto. Ah, è brutto. Ma ha detto che devo essere infornato. Ma questo è brutto. Scusami, Polegato, perché sei in lutto? Perché sei in lutto? Per essere bruciato, per essere mudato. Certo. Hai il cervello che non benissimo, è ancora Polegato in tribunale. Scusami, ottimo. Una cosa, perché sei in lutto oggi? Perché sei in lutto? Spiegami. Scusami una cosa, qui ci hanno occupato partigiani, persone che hanno fatto solo disastri in Italia, sindacati che sono collusi con tutto un sistema mafioso e massonico, hanno portato allo sfascio questa Italia qui. Se siamo a queste condizioni qua, e grazie a quei pezzi di merda di lì, di sinistra lì, hai capito? Noi abbiamo bisogno di un ordine, di disciplina, di persone che credano di portarti in ospedale, abbiamo bisogno. Scusami, Parenzo, cazzo. Di riportarti in ospedale. Polegato, io non ho capito bene, ma il 25 aprile per te che cos'è il 25? Non conta il 25 aprile. Io sono giorno di lutto. Giorno di lutto. Io sono l'italiano, io sono giorno di lutto, perfetto. Parenzo, io sono giorno di lutto. No, ti porto la grammatica italiana prima del tribunale. Io sono giorno di lutto, ha detto sto povero demente mentale. Vabbè, ma io sono giorno di lutto. Siccome che io non ho studiato. Siccome che io. Ma come sei vestito oggi? Siccome che io. Noi siamo tutti in camicia nera. Oggi ho avuto 40 camicie nere. Addirittura. Abbiamo cantato Facetta Nera. Bravi, bravi. Abbiamo cantato Giovinezza. Bravi, bravi. Il fascismo è stato una grande cosa. Non vi hanno portato via tutti, no, non vi hanno portato in ospedale tutti quanti. Ma scusa, ma non ho capito. Oggi sei in al ristorante in camicia nera. No, ma quale ristorante? Dell'ospedale? Sì, signore, sono il ristorante in camicia nella nera. Mensa dell'ospedale. Ma quale ristorante? Come oggi per te, veramente. Ma dopo me ti porto io in tribunale, Parenzo. È nell'ospedale psichiatrico. Ma le palle, coglione. Ma la resistenza per te, che cos'è la resistenza? È quella che gli fanno nella testa con gli elettrodi. La resistenza ha fatto disastri. La resistenza. Ascolta, parliamo degli americani che ci hanno salvato. degli inglesi, quella roba lì. Beh. La resistenza erano quando... Ma lo sai che esiste ancora, ecco, il segreto di Stato sulla resistenza? Cioè, sentiamo dopo la 76 anni, 76 anni, non ti dicono neanche le notizie di resistenza. Ma scusa, i partigiani... Perché? Perché hanno fatto solo disastri, solo omicidi, fratricidi, sono dei delinquenti, quella gente lì, dei delinquenti. L'AMPI è un'associazione delinquere. Associazione delinquere, addirittura, faranno, addirittura l'AMPI associazione delinquere. Sì. Ma denunciatemi tutti, che cazzo me ne frega a me, Parenzo, denunciami, che mi fa piacere. Io voglio capire una cosa, caro Polegato, tu in questa Italia democratica, dove caro ognuno Polegato può dire le cose... democratica, scusami, secondo te la chiami democratica? Beh, tu puoi votare un idiota come lui, può dire qualunque cosa, sicuro. Le persone che ci governano sono massoni, mafiosi e marionette. Tutti, ho capito. Vabbè, d'accordo. Vabbè. Io voglio capire. Ma perché gli dici d'accordo? No, perché gli devi dire d'accordo? Perché? perché tu assecondi il pazzo, ho capito? No, bravo. Sì, Maretto, sì, sì, ho capito. Tu assecondi il pazzo. Beh, quello che ti piace a te, perché ti piace il culo gonfio a te. No, ti piace. In Veneto lo dicono. In Veneto lo dicono molto. Mi hanno detto che sei vecchione. Che ne pensi dei gay? Sei molto intelligente a offendere i genitori che sono morti. Questa è io offendo te, signor Parenzo. Io offendo te. Dimmi me, ma dimmi io a me, dimmi a me te, quello che hai detto non tu. Non offendere i genitori, io, io non offendo te, genitori, io offendo te, infatti. Scusami, ma i gay... No, no, tu hai detto, tu hai parlato di mia madre. Sì, ho chiesto come sta, sicuramente. Io ti porto in tribunale, io ho un fracco di botte se ti trovo, pezzo di merda. Cosa mi dai, scusami? Pezzo di merda, cosa trovo, fai? Ti do un fracco di botte. Cosa fai? Ma tu ce l'hai l'olio di ricino? Ripetilo, ce l'hai l'olio di ricino? L'olio di ricino? Ripetilo, coniglio, ripetilo. Se mi porti in tribunale, io ti trovo, ti do un fracco di botte perché ho offeso mia madre. Ma hai capito? Hai offeso mia madre. Ma io non e tu non puoi offendere le persone che sono morte. Ma io questo è brutto. Questo è brutto, però. È io non le vedo l'ora. Io ho detto che non so di chi sia figlio, non lo possiamo immaginare tutti. No, no, no, hai offeso mia madre. È tutto registrato, sicuramente. Pezzo di merda. Cosa ha detto? Scusi? E chi offende mia madre prende un fracco di botte. E tu quando ti trovo ti do un fracco di botte. Vieni che ti aspetto. Scusami, vieni che ti aspetto. Che paura. Che paura delle mie. Minacce di Polegato. Senti un attimo, senti un attimo. Culatoni di merda. Eccolo chi qua. I culatoni, chi sono i culatoni? Eccolo qua. Ma uno ce n'hai vicino a te, parenti. Ma come i gay per te, che fine dovrebbero, che fine dovrebbero fare i gay, secondo te? Io te l'ho detto l'altra volta, forse tu non riesci no, a capire. No, non l'ho capito. Lo ripeto ancora, non si vede neanche qual è la forza. Ognuno quel culo. Ognuno col culo proprio fa quello che vuole. E quindi lei con la faccia fa quello che vuole, mi pare, infatti. Interessa. A me non mi piace. Lei infatti ci mette la faccia, vedo. Lei infatti interessa che alla lettera lei ci mette la faccia, infatti. Ascoltami una cosa. Sentiamo, se ne offese. Non voglio che adottino bambini, perché vabbè, per quello è violenza sui bambini. Ecco, allora col culo, se uno maggiorenne, guarda quello che vuole. Vendola, che te l'ho detto pure che li facevano un'altra volta una castrazione chimica. Ma è troppo poco. Poco, cioè, che bisogna fare? Attento, sono cose vergognose. Sì, questa è violenza su un bambino. Violenza su un bambino. Ci vogliono delle regole. Che bisogna fare? Che bisogna fare con Vendola? Impiccarlo? Condannarlo a morte? No, no, siccome che è malato, va curato. Siccome va curato, vabbè, va curato. Noi stiamo mantenendo. Lui è sano, invece, giusto? Lui è sano, lussuria. Giusto? Stiamo mantenendo lussuria. La signora Lussuria. Vladimir Lussuria, però non Lussuria. Vabbè, io oggi sarà l'amante di Parenzo, la signora Lussuria, sicuramente. Dice... Ma figurati che io l'ho conosciuta a casa tua, pensa un po'. Io voglio capire una cosa, io da te voglio capire una cosa, però. Oggi, che è il 25 aprile, con quale canzone festeggi tu? Con quale canzone ti sei svegliato allora, stamattina? Abbiamo cantato l'inno nazionale nostro, che sarebbe Giovinezza. Addirittura, vuoi Giovinezza, com'è? Bisogna cantare bene la giovinezza. Vai. L'inno nazionale italiano e sarà il futuro. Dico, dice salve o popolo d'eroi. Dimmi. Salve o patria immortale. Sì. Sono rinati i figli tuoi con la fede e l'ideale. Sì, poi? Cioè, forse non avete capito un cazzo. Ma come fa? Come fa la canzone? Come fa la canzone? Come fa? Così giovinezza, fa. Giovinezza, primavera di bellezza, nella vita, nella festa, il mio canto stella e va, per Benito Mussolini, eila eila, alla la, per la nostra Italia bella, eila eila, alla la. Senti quella razza di coglione di merda, dimmi sotto. Ma scusami, alla bocca come fa fare bene la canzone, David, vai, vai, ripetila. Non mi fa cantare, ripetila. Cosa vuoi che ti canti? Cosa che ti no, la stessa, giovinezza. Ancora. Vai, vai, ancora, è più bella, Parenzo l'ha disturbata. Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale. sono rinati i figli tuoi con la fede e l'ideale, il valor dei tuoi guerrieri. Lorenzo, la visione quel di delle emorroidi, va, togli le emorroidi, po legato a lavorar. No, io lavoro, tu non fai un cazzo la mattina sera. Ciao, Pagliato, ciao, fatti ciao, togliere ciao, le tonsille, cioè le emorroidi. Viva il Duce, viva il Duce, viva il Duce, viva il Duce, cioè sono fascista, me ne vado. Emorroidi. Benissimo, viva il Duce. Sì, no, viva la polizia che arriva, saluti, imbecille. Ma vaffanculo te e tutti quei culatoni di merda come te. La polizia io la rispetto, coglione. Ottimo. Ciao. Sul finale di partita, ciao. Altro reato commesso. Sì, ti aspetto in tribunale, moron. Ciao. No, ma il bello, Parenzo, il bello è che poi si è offeso dopo che ti ha detto che ti vuole mettere nei forni. Cioè, si è offeso. Per questo si è offeso per la madre. Si è offeso per no, ma lascia perdere i tribunali. Non ho detto dai. Niente. Io ho detto semplicemente. Ho detto che non so. Ti ho spiegato cosa ho detto. Hai detto che un figlio di puttana. Vabbè, no, d'accordo. Tu lo stai dicendo adesso. Io non conosco le sue radici, i suoi parenti, eccetera. Non so di chi sia figlio. Però ognuno può immaginare quel che vuole. Quindi ognuno può immaginare quel che vuole. Salerno, vai. Ma no, ma è incredibile che si offenda dopo averti detto che vai sì, a appunto, Sato, cioè. Ma quello va in tribunale, quella roba. Ma no, sicuro. Ma lascia perdere, dai. Posso ma che ti frega, dai. Vai in tribunale. Ma no, troppo. Ma lascia perdere. Fidati di me. Michele fidati. Da Salerno, dai. Ti fidi di me? No, vai, ma è sbagliato, tribunale. Sarebbe sbagliato. Vai in tribunale. Vabbè, dai. Pronto? Dimmi, dimmi Michele, dimmi. Sì, fino ecco. A prova contraria sei tu, sì. Ecco. No, ma devo dire una cosa che non ho mai sentito in trasmissione, vi ascolto spesso, ma c'è un punto circa gli animali vegani, eccetera. Sì. Abbiamo sentito tutto qua. Mi, mi pare che oggi sia no, oltre questo, cosa si può sentire ancora? Mi pare impossibile anche immaginarlo oggi. Però allora, domani sono sicuro che mi stupirai ancora una volta. Dai. Sono quasi sicuro. Guarda. Cioè, il punto è questo: quando si mangia la carne, quando si sceglie di essere vegani o non vegani o vegetariani o quello che è, voi esaltate i due estremi, ovviamente, che è quello di mangiare la carne, la caccia o quello che è, contro i nazi vegani che... Vabbè, dai, forse non ci fare il riassunto, lo sappiamo già, dai. Il punto centrale, però, secondo me, questo è il maltrattamento gratuito degli animali. Che... Ma questo lo sappiamo, siamo tutti contro il maltrattamento gratuito degli animali. No, dai, non è vero, perché andare a comprare la carne a pochi euro al chilo vuol dire automaticamente incentivare l'allevamento intensivo, gli ormoni, gli antibiotici e mangiare una carne schifosa. Ma questo, ma lascia perdere, ma fai, no? Michele, no, ma lascia di queste cose si occupino i dietologi, quelli che si occupano di alimentazione. Ma che ti metti a fare discorso sulle etichette? Io mi fido io mi informo e mi fido di quello che c'è scritto sopra le etichette. Ma non siamo alla trasmissione di Sottile, come si chiama? No, ma non voglio mi manda Rai 3. Non siamo a Mi manda Rai 3 qui. Se tu non ti fidi delle etichette, se non ti fidi della carne, se non ti fidi degli autori, vai a Mi manda Rai 3. Ottimo, no, non vado. Assolutamente, ma è inutile. Ma scusate, ma se voi andate a comprare una carne a 8 euro al chilo, vi è mai capitato nel supermercato? Oddio mio, vai a Mi manda Rai 3, non ci rompere i coglioni a noi. Dai, su. E che palle, Francesco da Genova. Ma vai a 8 euro, ma ancora, vai a Mi manda Rai 3. Ma che mi frega a me, chiudi Francesco la baracca, da Genova. La baracca che è meglio, chiudi la baracca. Veloce, che c'è, Francesco? Ciao, no. Ciao, buonasera. Dimmi. Volevo, detto che siete dei geni assoluti, vabbè, dai, lascia perdere. Dimmi. Sul discorso di Macron e di Mariona di Norfi, vorrei dire che Mariona di Norfi ha una doppia morale, nel senso che dà giudizi sulla vita altrui, sui rapporti, allora... sull'età, la differenza dei figli, e lui però, che è un ultracattolico, osservante. Di Santa Romana Chiesa, si è sposato due volte. Sì, però lui ha sempre detto di essere un peccatore da questo punto di vista, uno che pecca, che insomma rompe, che ha rotto la regola. E vabbè, ma fa parte della sua personalità, ragazzi. Su, e lo potete attaccare quanto volete, però su questo lui dice che è un peccatore. A domani, ciao. Stai zitto, ciucciacazzi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Andiamo avanti. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.